Allora, comunicazione ministeriale del 6 febbraio 2011. 12, sì, 11, sempre non sono ancora entrato nel nuovo anno, non ce l'ho fatta. Allora, oggi parliamo brevemente dell'impostazione del tema della medialità e delle immagini in Wilhelm Schuster. E poi affronteremo Benjamin. Allora, Wilhelm Schuster è uno studioso che in Italia è diventato, insomma, noto da non molto tempo, che è nato nel 1920, morto nel 1991. È un personaggio bizzarro, perché adesso non ricordo, credo sia nato a Praga. A Praga, in un periodo però in cui ancora c'era una comunità tedesca di cosa che oggi non c'è più, dopo il nazismo, cioè dopo la denazificazione, giustamente, i preghesi, giustamente o no, non lo posso dire, si sono liberati anche dei, diciamo, tedeschi, ma a lungo Praga ha avuto una comunità di lingua tedesca, di cui l'esponente più famoso penso che tu sappia chi è Franz Kafka. Kafka era un praghese, ma di lingua tedesca, e infatti ha scritto in tedesco, però insomma fa parte di due tradizioni culturali che si sono intrecciate, quella tedesca. Allora, niente, Flusser è un... però credo fosse, non mi ricordo se era di nascita mista o no, questo non l'ho studiato a sufficienza, ma la cosa fondamentale è che comunque lui, essendo nato nel 1920, ha poi girovagato per il mondo, quindi si è trovato, si è trovato a scrivere praticamente in quattro lingue, cinque lingue diverse, perché è stato a Parigi, quindi intanto ovviamente conosceva, diciamo, il boemo, il ceco, insomma. Poi ha scritto, però gran parte delle opere le ha scritte per un periodo in tedesco. Poi però è stato a Parigi, quindi si è messo a scrivere alcune cose che sono scritte in francese. Poi ha scritto anche in inglese per una serie di motivi. Poi è andato a San Paolo in Brasile, è vissuto in Brasile, quindi ha scritto anche in brasiliano, per cui è un personaggio così, insomma. Allora, l'impostazione di Flusser è un'impostazione, diciamo, radicale, da un certo punto di vista, concettuale. Si è dedicato ai media in un senso, allora, a una primissima lettura le sue considerazioni sui media possono sembrare, in effetti sono, per certi versi, molto simili a quelle di McLuhan. Però, quindi, tutta la questione scrittura, oralità, eccetera, sono le cose che dovremmo più o meno conoscere nell'impostazione classica, diciamo, di McLuhan. Ovviamente lui era più giovane di McLuhan, lo conosceva bene, eccetera. Però hanno un sapore, insomma, per certi versi, in certi casi anche più filosofico di McLuhan, anche se alcune tesi possono essere simili, insomma, ed è uno di quelli che hanno, insomma, riflettuto più a fondo, per me, dal mio punto di vista, sulla questione dell'immagine. In genere, in alcuni circoli intellettuali o culturali contemporanei gli si addebita un, dicono, un certo schematismo di pensiero. Io però trovo che invece sia, che abbia una, proviamo a, a leggere qualcosa, poi ti dirò quelle che secondo me sono le quella che è la sua impressione di fondo. Ah, no, finiamo dicendo che comunque è a Berlino, adesso c'è un archivio Wilhelm Flusser, diretto da Siegfried Zielinski, che è un polacco, però praticamente ormai naturalizzato tedesco, molto, molto bravo, insomma, molto. E varrebbe la pena, insomma, che io sogno sempre di mandare qualche studente a, a studiare lì all'archivio Wilhelm Flusser, perché c'è un sacco di materiali. Qui c'è una lettera che Flusser ha scritto a René Berger nel 73, dunque Flusser, abbiamo detto, è nato nel 20 e è morto nel 91, dice, in cui spiega un po' la, la sua vita, insomma. Che è stato anche in Italia, è stato a, a Merano, l'isola d'Elba. Chi è René Berger? René Berger è un altro studioso, un più giovane, più vecchio di me, più giovane di lui, quindi sarà nato negli anni 30, ricordo. Mi sembra, non so se è un francese o se è uno svizzero, no, è uno svizzero, perché infatti ha l'età. Losanna, René Berger. L'ho conosciuto nei primi anni 80 girando per il mio. Ma insomma è uno che si è occupato, almeno quando, quando ho visto io, però si occupava principalmente di video arte. Allora, in questa lettera che, di cui ti leggo dei pezzi, si capisce però. Dice, nel mio discorso sul mondo codificato, il mondo codificato è il titolo del, del saggio che apre questo libro di cui poi parleremo, la cultura dei media. Nel mio discorso, sul, nella mia conferenza, nel mio talk, quindi nel nome, nel nome mio discorso, nel senso, nella mia conferenza, insomma, nel, nella mia esposizione sul mondo codificato, ho argomentato con e su e contro la, la vostra, la, la, la tua, insomma, mutazione dei segni, si sta rivolgendo a questo Berger. Considerando, dicendo che tu non sottolinei sufficientemente l'imperativo, diciamo il lato imperativo ideologicamente delle cose che ci sono. Nel frattempo tu hai cambiato posizione, come vedo dalla tua lettera. Mutation de Berger, or Berger's Berger René, would not be a bad title for an article. Allora qui c'è un gioco di parole su Berger, perché Berger in francese vuol dire pastore. Allora, mutazione dei pastori. O Berger René, questo è un altro gioco di parole che non, però non, non ti non saprei. Non dovrebbe essere un brutto titolo per un articolo su di te che sto preparando. Era, era uno così, faceva. Oppure anche Berger, ent o fer. Ent e fer sono due prefissi della lingua tedesca, ent e fer, che non, non so quale, non so a quali prefissi italiani si possano comparare. Ent è Entstehung, sì. Okay. Che chi, ha, chi sta seguendo il seminario su Foucault. Quindi ent è qualcosa che indica intensificazione, che, come dire, una intensificazione di intensità, cioè di, diciamo di gradazione. Mentre fer indica più che altro una durata nel tempo, per esempio vergangenheit, vergangen, passato, il passato è fare gangen, gene, andare, gangen è il passato di andare, gone, in inglese. Quando qualcosa è trascorso, i tedeschi dicono vergangen. Quindi il fer indica, allora, ferger, end of o fer. E poi dice Pechino, tra il punto, Pechino deve essere stata un'importante esperienza, evidentemente perché era appena stato a Pechino nei primi anni 60. Così vedi, so now you see the world we live in is full of signs of capitalism, così tu vedi il mondo in cui oggi viviamo pieno di segni del capitalismo, e il mondo cinese è pieno dei segni di una ideologia che noi non sappiamo decifrare, mi congratulo con te. Maybe one day we can make, the two of us, a theory of communication against McLuhan, and also in some sense in conflict with Moles. Forse potremmo scrivere, io e te, prima o poi, una teoria della comunicazione contro McLuhan. Quindi evidentemente questa, l'apparente somiglianza dei temi di flusso con il problema McLuhan evidentemente è soltanto apparente. Tu dal punto di vista dei media e io dal punto di vista del ricevitore, del ricevente, nella teoria della comunicazione, cioè l'emittente e il ricevente, fenomenologicamente consapevole, se la critica, inclusa la critica d'arte, è qualcosa, essa è decodificazione, il che significa deideologizzazione. Io lo so da almeno 2 anni, da quando ho cominciato a scrivere articoli per i giornali ogni giorno nella Folha de São Paulo, che è il quotidiano più importante di São Paulo in Brasile. Tu lo sai adesso, dopo Pechino, dopo che sei stato a Pechino. La teoria della comunicazione, inclusa la critica d'arte, è il solo, it is the only possible political commitment for civilized people like you and me. È il solo possibile impegno politico per persone civili come me e te, ma soltanto ben pochi di noi lo sanno. Ma è curioso che noi lo sappiamo, la cosa curiosa è che noi lo sappiamo, ma non sappiamo trasformare la nostra conoscenza in azione. Noi scriviamo libri, articoli, facciamo conferenze, cerchiamo di cambiare le biennali e le AICA, l'AICA deve essere un'associazione internazionale di studiosi del genere, e altri tipici mostri dell'apparato, dell'apparato culturale, intendono, migriamo per tutto il mondo. Invece di sederci e lavorare, invece di sederci e di tirare fuori, working out, una strategia, tra virgolette, per la nostra azione. Come vedi, sono un bravo discepolo, sono un bravo alunno. Perciò diventiamo dei clown dell'apparato. Era consapevole. I left Brazil because I did not want to be a clown any longer. Me ne sono andato dal Brasile perché non volevo più essere un clown. And now I am becoming a clown in Europe. E ora sto diventando un clown in Europa. I think we must meet and create a secret society of manipulatable signs with ourselves and our wives as founding members. Penso che dovremmo incontrarci e mettere in piedi, creare una società segreta di manipolatori di segni con noi stessi e le nostre mogli come i membri fondatori. Per darti un'idea anche un po' dello stile pesante, deve essere molto noto, insomma, che nel 91 io avevo appena cominciato ad occuparmi di queste cose, ma non sapevo chi era Flusser. Questa qui me l'ha data, la copia di Tretta me l'ha data appunto Zielinski quando abbiamo parlato negli ultimi anni. Si scrive Zielinski. Allora, Zielinski è, purtroppo io sto cercando di tradurre qualche suo libro in italiano, ma lui scrive in tedesco, quindi non posso tradurre io perché è troppo complicato per me. Io ho letto le versioni inglesi, insomma, dei suoi libri. Ne ha scritto uno molto bello che si chiama Deep Time in the Media, o of the Media, non lo so, Il Tempo Profondo dei Media, dove ci ha fatto anche una una serie di conferenze che ho ascoltato. Lo scorso anno è stato qui ad un convegno della MNOD, cioè della mia scuola di dottorato a Milano, e ha tirato fuori il manifesto. Non è comunque Zilinski, è quello che dirige il centro studi, l'archivio, insomma, Zilinski. Per esempio, vediamo come comincia questo saggio, Il mondo codificato, che è un saggio del, vediamo gli anni, perché gli anni sono importanti, è un breve saggio del 78, quindi vecchissimo. Cioè, se confrontiamo il nostro mondo con quello antecedente alla Seconda Guerra Mondiale, a colpirci è in primo luogo la relativa assenza di colore dell'anteguerra. Architettura e macchine, libri e strumenti, abiti e prodotti alimentari, tutto era relativamente grigio. Del resto, uno dei motivi per cui chi ritorna da un viaggio nei paesi socialisti ha l'impressione di essere stato nel passato è l'assenza di colore di quei paesi. La nostra esplosione di colore là non ha avuto luogo. Naturalmente qui questa è un'esperienza che ormai per voi è preclusa, perché da quando voi siete grandi o avete avuto la ragione, o forse quando siete nate, i paesi socialisti non ci sono più, e quindi i paesi dell'est Europa si sono rapidamente trasformati in una copia, in una caricatura dei paesi occidentali. Basta andare a Praga e ci si rende conto di come questa meravigliosa città. Io ho avuto la fortuna di vedere la prima volta che c'era ancora il comunismo reale. Io non ho alcuna simpatia ovviamente per il comunismo reale, però per il socialismo reale. Però quel tipo di cosiddetto comunismo, insomma, aveva comunque in qualche maniera preservato quelle, diciamo, città, Praga, come Budapest, come altre città che non conosco, probabilmente Varsavia, eccetera. Berlino Est anche, in qualche modo, Berlino un po' diverso, però perché era spaccata in due, quindi c'era la parte ovest e la parte est. Io Berlino l'ho vista nel mese in cui cadeva il muro, quindi si vedeva ancora ancora adesso credo che si veda un po' questa differenza, nonostante la nostra, l'est e l'ovest, ma perché sì, non è che possono cambiare. Però all'epoca c'era il muro, c'era la metropolitana, c'era tutta questa roba qua, le cose che ora non ci sono più. Non c'era Alexanderplatz, che era una terra di nessuno, perché si è passati in mezzo alla Cavalese, poi l'hanno rifatta, è stato Renzo Piano, l'hanno ricostruita. Alexanderplatz è uno dei centri della storia berlinese. Dreblin ha scritto addirittura un romanzo chiamato Berlin Alexanderplatz, perché era uno dei luoghi dei centri, e ovviamente la spartizione della città in due dopo la Seconda Guerra Mondiale passava proprio per quella piazza, che quindi era stata distrutta, insomma. Mentre la porta di Brandeburgo, che sta anche quella stava sul confine tra le due, però insomma, era stata più o meno, diciamo, salvata, l'Unter den Linden, rimaneva tutto nella parte occidentale, poi dalla porta di Brandeburgo in poi c'era la parte orientale. Vabbè, queste sono divagazioni. Effettivamente si vedeva questa differenza, questa questione dei colori, no? Il nostro ambiente è saturo di colori che giorno e notte negli spazi pubblici e in quelli privati, stridendo o sussurrando, esigono la nostra attenzione. Calze e pigiami, barattoli e bottiglie, vetrine e manifesti, libri e cartine geografiche, bevande e gelati, film e televisione, tutto è in Technicolor. Palesemente non si tratta solamente di un fenomeno estetico, di un nuovo stile artistico. L'esplosione dei colori significa qualcosa. Il rosso del semaforo significa stop, e il verde smagliante dei piselli, comprami. Noi siamo letteralmente immersi in colori carichi di significato e veniamo programmati con i colori. Essi costituiscono un aspetto del mondo codificato in cui dobbiamo vivere. I colori sono il modo in cui si appaiono le superfici. Se dunque oggi una parte importante dei messaggi che ci programmano ci è veicolata a colori, ciò significa che le superfici sono diventate importanti portatrici di messaggi. Pareti, schermi, superfici di carta, plastica, alluminio, vetro, tessuto, eccetera, sono diventate media importanti. La situazione d'anteguerra era relativamente grigia, perché a quel tempo le superfici svolgevano un ruolo minore nella comunicazione. A prevalere allora erano le linee, lettere e numeri. ordinati in serie. Il significato di tali simboli è ampiamente indipendente dal colore. Una A rossa e una A nera significano la stessa vocale e il testo che state leggendo, stampato in giallo, non acquisterebbe qualche altro significato. Per questo l'attuale esplosione dei colori indica l'accresciuta importanza di un codice bidimensionale, o viceversa indica che i codici unidimensionali, come l'alfabeto, attualmente tendono a perdere rilevanza. Il dato di fatto che l'umanità sia programmata, allora, nel giro di una pagina e mezza abbiamo già incontrato quattro volte, o tre o quattro volte, il verbo programmare o l'aggettivo programmata, e applicato a chi? Agli esseri umani. C'è qualche cosa che ci programma, questo è uno dei primi caposaldi della, diciamo, non, come dire, dell'estetica, diciamo, della sociologia dei media di flusso. Il dato di fatto che l'umanità sia programmata da superfici, immagini, non può comunque essere considerato una novità rivoluzionaria, al contrario, pare trattarsi di un ritorno a una condizione primitiva. Prima dell'invenzione della scrittura, le immagini costituivano i mezzi di comunicazione decisivi. Tesi ardita, eh? Io non so se... Però, siccome poi ci torno in tanti altri... Poiché la maggior parte dei codici, per esempio il linguaggio parlato, i gesti, il canto, sono effimeri, noi siamo rinviati innanzitutto a immagini per decifrare il significato che gli uomini, da Lascaux fino alle tavolette mesopotamiche, davano alle loro azioni e passioni. E anche dopo l'invenzione della scrittura, superfici codice, come affreschi, mosaici, tappeti e vetrate di cattedrali, svolsero un ruolo importante. Solo dopo l'invenzione della stampa l'alfabeto cominciò effettivamente a dominare. Per questo il Medioevo, incluso il Rinascimento, ci appare tanto variopinto se raffrontato con l'epoca moderna. In questo senso la nostra situazione può essere interpretata come un ritorno al Medioevo, per così dire, come un retour avant la lettre, come un ritorno in anticipo. Non è però un'idea felice voler concepire la nostra condizione odierna come un ritorno all'analfabetismo. Le immagini che ci programmano non sono dello stesso genere di quelle che prevalevano prima dell'invenzione della stampa. Oh. Qui cominciamo a vedere qualche differenza rispetto a McLuhan. McLuhan parla con una certa superficialità di una ritribalizzazione dell'umanità, di un ritorno all'orecchio, eccetera, eccetera, al parlato. Ma in effetti McLuhan, tranne forse che nel suo primo libro, che è La sposa meccanica del 50, The Mechanical Bride, non ha mai costruito un discorso preciso sull'immagine, ha sempre parlato di oralità, cioè la sua polarità più importante è oralità-scrittura, ma sempre la sua analisi principale si svolge sulla questione della parola, no? Certo, ci sono poi un sacco di, perché ha parlato della, cioè, pubblicità, eccetera, eccetera, però a me pare che diciamo, l'analisi del rapporto tra parola e immagine che fa Flusser sia molto... sia più, diciamo, precisa di quella che fa McLuhan. I programmi televisivi sono un'altra cosa rispetto alle vetrate delle cattedrali e le superfici di un barattolo di minestra sono un'altra cosa rispetto alla superficie di un quadro rinascimentale. Naturalmente, cioè, vabbè, è ovvio che il Signore dell'Anima non intende che quelle sono opere d'arte e queste no, però infatti spiega. In breve, la differenza è questa: le immagini premoderne sono prodotti artigianali, opere d'arte, quelle postmoderne sono prodotti tecnologici. Questa cosa, che detta così è molto semplice, sembra quasi banale, no? In realtà poi il flusso tira fuori una serie di... E da qua che c'è la differenza con McLuhan? Certo. Sì, un po' anche qua, non che McLuhan non l'abbia, però... come dire, McLuhan ha sempre teso a guardare la tecnologia come... adesso la sparerò grossa, insomma, un po' come una sorta di codice neutro, insomma, no? Dice, vabbè, insomma, c'è la tecnologia, anche adesso le immagini con la tecnologia si fanno. L'idea, diciamo, di McLuhan dell'influenza sociale, diciamo, dei media, quindi di ciò che gli uomini ricavano dai media, tende sempre, pericolosamente, quella di McLuhan, a sottovalutare il conflitto. McLuhan non parla quasi mai di conflitti, parla di processi relativamente oggettivi, che certamente hanno influenza sul modo di pensare della gente, eccetera, eccetera, ma non spiega bene, o perlomeno non ci dice bene, se c'è una relazione tra una qualche intenzionalità dei gestori del medium nei confronti della... tutto il suo, tutto l'entusiasmo di McLuhan per quelli che lui chiamava in suoi tempi i media elettrici, cioè insomma la radio, la televisione, il pezzo famoso di Understanding Media in cui dice che questi media elettrici potrebbero addirittura riportarci a una condizione pentecostale, che non propriamente nel senso religioso, in senso metaforico, nel senso in cui durante la Pentecoste gli apostoli, no, sono riuniti con la Madonna, ricordano Gesù, a un certo punto discende lo Spirito Santo su di loro, quello che noi vediamo nei quadri come delle fiammelle sulla loro testa, questa è la Pentecoste, ma la cosa importante che è scritta negli Atti degli Apostoli è che questa discesa dello Spirito Santo su di loro li mette in condizione di comprendere tutte le lingue, quindi è l'inversione della Torre di Babele, insomma, no? La Torre di Babele è stata la condanna per cui l'umanità prima aveva un'unica lingua, poi l'uomo è stato troppo orgoglioso, ha voluto costruire la torre che sfidasse il cielo, allora Geova si è incazzato, gli ha mandato il fulmine, ha buttato giù la torre, ma soprattutto gli ha frantumato le lingue, cioè gli ha impedito di capirsi tra loro. Con la Pentecoste si fa un flashback, si torna indietro, si va come nei film di Paperino, come in qualche cartone animato, e si ricostruisce la condizione precedente. No? È un pezzo tipico questo del modo di pensare di McLuhan. McLuhan, certo, non è che non insomma, vedeva anche dei processi tutto sommato reali o delle possibilità, delle potenzialità reali, ma anche in una cosa del genere lui non ha mai scritto, dice però, dice guardate, ok, questo potrebbe essere uno degli effetti possibili, che cosa favorisce, che cosa si oppone a questo effetto? C'è qualche forza? C'è qualche processo che tende a favorire questo effetto, c'è qualche processo che tende a contrastarlo, quindi c'è un conflitto tra qualche diavolo di soggettività sociale, di attori sociali, di agenti sociali che fanno le cose. In McLuhan è difficile trovare discorsi di questo tipo, dobbiamo ricostruirli molto. McLuhan è stato uno straordinario, ha avuto delle intuizioni chiaramente gigantesche, eccetera, diciamo, per quanto riguarda l'effetto ovviamente dei media sul modo di pensare delle come dire, persone, però nonostante che sia considerato il fondatore di una nuova diciamo, disciplina, cioè appunto la sociologia dei media, lui che era un professore di letteratura e non di sociologia, però diciamo manca un po' la sua come dire, sociologia, manca della considerazione della categoria del conflitto, non così quella di Flusser. Allora, in breve la differenza è questa, rileggo, le immagini premoderne sono prodotti artigianali, opere d'arte, quelle postmoderne sono prodotti tecnologici, dietro le immagini che si programmano oggi si può riscontrare una teoria scientifica, mentre lo stesso non vale necessariamente per le immagini premoderne. L'uomo premoderno viveva in un mondo di immagini che significava il mondo, noi viviamo in un mondo di immagini che tenta di significare delle teorie relative al mondo, eccolo qua. C'è questo noi potremmo, e poi concludo, questa è una situazione nuova e rivoluzionaria. Adesso abbandono questo testo perché comunque va avanti, parla di codice, dice cose di te. Potremmo parafrasare questa frase di Flusser e dire noi viviamo in un mondo di immagini che sono molto più permeate di linguaggio, di caratteristiche linguistiche rispetto alle immagini precedenti. Le immagini tecniche sono immagini più linguistiche delle immagini non tecniche. Perché? La ragione è questa, il titolo del saggio lo dice chiaramente, il mondo codificato è il codice. Quindi si può fare anche una semiotica. Della componente linguistica si potrebbe fare, certo, poi dopo c'è sempre il fatto che le immagini comunque costituiscono una... Allora, tieni conto che molte di queste cose... Flusser è morto nel 91, quindi praticamente alle origini dell'era, diciamo, digitale, ha visto pochissimo dell'era digitale, eppure ha avuto una capacità di premonizione fortissima da questo punto di vista, anche se non ha, un po' come tanti altri, come Ballard, come Dick, dal punto di vista degli scrittori, dico, insomma, che hanno saputo vedere già negli anni 60 e 70 che hanno saputo intuire dei processi che si sarebbero sviluppati in modo pienamente soltanto nella parte. Teniamo da conto questa osservazione che hai fatto sulla questione della semiotica, perché magari ci torniamo, vediamo se Benjamin si scriveva in anni ancora precedenti a questi, negli anni 30. Ci possa aiutare a capire. Questi temi che sono del primo saggio sono sviluppati in modo più chiaro nel saggio Lo status delle immagini, che e In immagini e nuovi media, che sono due testi. Beh, Lo status delle immagini è del 91, quindi praticamente dell'anno della sua morte. Immagini nei nuovi media è dell'89. Lo status delle immagini è quello più importante, perché parte da Lascaux. In breve, qui in questo saggio, Flusser distingue le immagini in preistoriche, storiche e post-storiche. Quelle preistoriche sono, per esempio, quelle di Lascaux, quelle di Altamira, cioè le più antiche pitture che noi, diciamo, conosciamo, e sono precedenti ovviamente non al linguaggio ma alla scrittura, e ovviamente, come noi sappiamo bene, che non c'è storia senza scrittura, quindi sono immagini preistoriche. Le immagini storiche sono sono quelle nate dopo l'invenzione della scrittura, quindi dopo c'è una trasformazione nelle arti, e evidentemente nascono più o meno le arti, quelle che noi chiamiamo arti. Poi noi tendiamo ad attribuire questo nome anche alle immagini precedenti, cioè tendiamo ovviamente, per forza di cose, a guardare le immagini preistoriche come se fossero storiche, ma è evidente che qualsiasi categoria di arte, compresa quella greca di tecne, che comunque è sempre diversa dalla nostra idea di arte, si applicano male a quelle immagini lì, cioè non perché non ci sia voluta una tecnica per farle, ma perché non c'è una consapevolezza e soprattutto non c'è un contesto di, virgolette, civiltà, quindi di organizzazione della società talmente sufficientemente ramificato e sufficientemente come dire, in cui la scrittura, che cosa fa, si potrebbe dire, la scrittura rende più trasparente, per certi versi, o illusoriamente forse, ma rende più trasparente il linguaggio, lo fissa, si potrebbe dire in qualche modo lo codifica, comincia a codificarlo. Certo, anche del linguaggio parlato si potrebbe dire che è un codice, ma chiaramente è un codice in modo diverso dalla, come dire, scrittura. È un codice la cui permanenza va assicurata con un lavoro lentissimo, no? Di ripetizione continua. La fissazione di un contenuto nelle culture orali è un lavoro lungo, lento, faticoso, che dura generazioni, su generazioni, su generazioni. Ecco perché il ritmo del mutamento nelle società preistoriche è così lento. Perché non c'è nessuno strumento, nessun mezzo che fissa come dire, i parametri del cambiamento, quindi consente di accelerare, la scrittura consente di accelerare il, come dire, mutamento, perché è già scritta, no? E consente soprattutto di fare una cosa che nelle società preistoriche è impossibile, cioè la critica, no? L'esame critico di ciò che è stato detto. Non si può fare un esame critico di ciò che è stato detto in una cultura orale. Nella cultura, come dire, nella cultura orale ci vuole così tanta fatica per, non solo per ascoltare quello che ovviamente un altro dice, ma per fissarlo nella propria testa, per ricordarlo, bisogna sentirlo ripetere una, due, tre, quattro, dieci, cento volte. E c'è sempre il pericolo che mi scappi di mente, c'è sempre il pericolo che non mi ricordo il passaggio giusto, c'è sempre il pericolo. Quindi è una situazione, insomma, è come un uomo che attraversa un abisso, insomma, attraversa una gola, su quei ponti fatti di assi, no? Tutti traballanti, che si scorre il rischio di cascare da un momento all'altro, bisogna stare molto attenti a tenersi bene, eccetera, eccetera. Con la scrittura è come se avessimo un bel ponte di legno fisso, stabile, con le assi belle grandi, con dei tronchi, insomma, vabbè, mi faccio due o tre cose, sono già più tranquillo, vado avanti più. Poi, questa è la parola, la scrittura. Con la stampa addirittura è come se avessimo quasi un'autostrada che passa sopra la cosa, perché so che posso fare tutte le copie che voglio, degli scritti, delle robe che ho fatto, eccetera, eccetera, non c'è nessun problema. Quindi preistoriche, istoriche, post-storiche. Ora, qual è la... Allora, mentre nel... Allora, però c'è un altro saggio che è accidenti, qual è? Non è lo stato dell'immagine. Adesso gli accidenti, a me che non mi... Ah no, ok, sì, è nello status delle immagini, che è il saggio dell'89. Nello status delle immagini, Flusser fa, si immagina, diciamo, di prendere tre epoche per capire le cose, no? C'è l'epoca di Lascaux, quindi un uomo di Lascaux, le immagini preistoriche. Un uomo della Firenze dei Medici, 400-500, per le immagini storiche, e un uomo contemporaneo. E il saggio comincia così. Nell'ipotesi che si cercasse di spiegare ad un uomo di Lascaux e a uno della Firenze Medicea che molte tra le immagini odierne sono immagini che si muovono, potrebbero facilmente insorgere degli equivoci. L'uomo di Lascaux penserebbe che queste immagini migrino da caverna a caverna, in modo ovviamente misterioso per lui, ma... E il fiorentino sosterrebbe che anche le immagini del suo tempo si muovevano, da quando si cominciò a dipingere sulle tele anziché sui muri delle stanze. Io il quadro lo porto da un'altra parte. Bisognerebbe perciò aggiungere che le cornici delle immagini attuali sono rimaste quasi altrettanto immobili di quelle di un tempo, e che in questo senso letterale il loro status non è mutato considerevolmente, continuano ad essere Gegenstände, cose che ci stanno davanti. Gegenstände è il plurale di Gegenstand, che è la parola tedesca per oggetto. Non sempre, non in tutti i casi, ma ci sono dei casi in cui il modo diverso in cui nelle lingue si dice una certa cosa ha anche un contenuto concettuale. Siccome Flusser qui fa riferimento proprio alla parola tedesca, infatti è stata lasciata nell'originale, se no. La parola tedesca Gegenstand, che vuol dire oggetto, è molto diversa dalla parola italiana, francese, inglese, che indica oggetto. Oggetto deriva, in queste ultime tre lingue, deriva dal latino objectum, ob vuol dire davanti, è un prefisso che indica davanti, lo iectum può essere sia il participio passato del verbo iacere o iacere, cioè giacere. In questo caso l'oggetto vorrebbe dire ciò che giace davanti, ciò che mi giace davanti, giace però, giace. Quindi quando tu dici oggetto, magari tu non lo sai, per chi non sa il latino non è consapevole di questa cosa, ma si è stratificata nella nostra mente questa cosa che l'oggetto è qualcosa che sta lì. Sta nel senso di sta orizzontale, giace. Peggio ancora se si fa derivare objectum dal verbo intensificativo, che è un po' diciamo diverso, che è iactare, cioè che sarebbe gettare, il gettare. Quindi l'oggetto è o qualcosa che giace di fronte a noi, o qualcosa che noi o qualcun altro abbiamo gettato di fronte a noi, davanti a noi. Ma in tutti i casi l'oggetto sta lì ed è, come dire, in francese, in inglese, in italiano e in spagnolo, l'oggetto è qualcosa di relativamente, diciamo, innocuo. Objectum, sta lì. Il tedesco Gegenstand invece deriva da due parole, Gegen e Stand, che è il presupposto passato di Stehen. Stehen vuol dire stare, lo stand inglese. Stare, quindi stare in piedi. Stare, non giacere. Quindi l'oggetto, diciamo, tedesco è qualcosa che sta di fronte a noi, non sta gettato, non sta orizzontale, sta verticale, insomma. Ma peggio ancora è il prefisso, Gegen vuol dire contro. Certo, contro nel senso che sta di fronte, ma anche contro nel senso di, diciamo, l'against, diciamo, inglese, il contro italiano. Quindi, per un tedesco, l'oggetto è qualcosa di vagamente minaccioso o comunque di qualche cosa che si erge di fronte a noi come una, come dire, potenza, come qualche cosa. Adesso è chiaro che questo non ha degli effetti immediati nel modo di parlare, però no, concettualmente indica una. E quindi è qua Flusser fa riferimento a questa cosa, cose che ci stanno davanti. Ciò che ha cominciato a muoversi, torniamo, sta parlando delle immagini che si muovono, cercando di come far capire all'uomo di Lascaux e all'uomo della Firenze dei Medici che le nostre immagini si muovono, come si muovono, loro non possono capirlo. Ciò che ha cominciato a muoversi è la scena visibile entro la cornice, non più una scena immobile, bensì un processo in movimento. Da ciò l'uomo di Lascaux trarrebbe la conclusione che nelle nostre immagini a muoversi sono le ombre, come accadeva sulle pareti delle caverne di fronte al suo focolare, in riferimento ovviamente al mito di Platone e della caverna. Gli si dovrebbe raccontare che le nostre immagini sono colorate e non si muovono solo lungo le superfici delle pareti, ma sembrano anche rompere all'interno della roccia per rientrarli. Il fiorentino allora potrebbe forse pensare che immagini del genere propriamente siano finestre. A ciò bisognerebbe rispondere che in tale immagine non solo come alla finestra si muove la veduta che si osserva, ma si muove pure l'occhio che guarda fuori, un occhio che può accostarsi alla veduta e assumere anche una maggiore distanza rispetto ad essa. Cioè, noi abbiamo delle tecniche che possono fare uno zoom, quindi senza che il soggetto fisico si muova può avvicinare, allontanare l'immagine, eccetera, eccetera. Per accrescere ulteriormente la confusione causata in tal modo, si potrebbe aggiungere che queste immagini, oltre a muoversi, emettono anche dei suoni. Dapprima certamente entrambi, l'uomo di Lascaux e il fiorentino, comprenderebbero la cosa in questi termini. Durante il trasporto da caverna a caverna o da chiesa a chiesa, quelle immagini producono dei rumori. Successivamente ipotizzerebbero che le ombre che si muovono sussurrino i segreti del regno delle ombre. Si dovrebbe spiegare loro che le figure che si muovono nell'immagine parlano ad alta voce, ridono e cantano, che il tuono nell'immagine fa sentire il suo scoppio, le gocce di pioggia e il loro picchettio, e anzitutto che inaspettatamente l'intera processione delle immagini è immersa in altri suoni, per esempio musicali. Di fronte a tali informazioni, verosimilmente entrambi, l'uomo di Lascaux, decisamente il fiorentino con qualche esitazione, affermerebbero che tali immagini sono realtà alternative, effettualità diverse. Fanno le stesse cose che fa la vita reale, mentre le mie immagini, dice quello di Lascaux, non possono farle, quindi vuol dire che è un'altra realtà. Non si potrebbe concordare con una simile opinione, si dovrebbe far presente che quelle immagini certo sono visibili e udibili, ma non si possono odorare né gustare. Ops. E prima di tutto è impossibile urtare le figure presenti nelle immagini, non hanno un corpo. Entrambi non accetterebbero questa precisazione come un controargomento. L'uomo di Lascaux affermerebbe che oltre a quella della vita d'essa esistono altre realtà, per esempio il mondo dei sogni, il regno dei morti, e che le immagini di cui parliamo sicuramente devono essere annoverate in quelle altre realtà. E il fiorentino direbbe che nel sentire la nostra descrizione ha acquistato una tale fiducia nella nostra tecnica di produzione delle immagini da convincersi che in futuro saremo in grado di realizzare immagini che coinvolgeranno anche il tatto, l'odorato e il gusto. Si sarebbe costretti a dare ragione ad entrambi. E per complicare ulteriormente le cose, si dovrebbe aggiungere che noi stiamo proprio cominciando a vedere e a udire in tali immagini realtà sinora mai viste e mai udite. Per esempio, algoritmi, corpi curvati nella quarta dimensione, o oscillazioni che oltrepassano le nostre capacità percettivo-sensibili. A queste precisazioni, entrambi, l'uomo di Lascaux e il fiorentino, dichiarerebbero concordi che al nostro posto ormai non farebbero altro che stare a guardare tale immagine, lasciando perdere il mondo sensibile, mortalmente noioso al confronto. Allora mi sembra chiaro che cosa vuol dire, vedi che approccio. Allora, il nome che a un certo punto Flusser attribuisce a queste immagini, che chiama anche post-storiche, ovviamente è quello, tutto sommato banale, di immagini tecniche. In che cosa le immagini tecniche si differenziano dalle immagini storiche, cioè dalle immagini prodotte a mano con un processo artigianale come i quadri o gli affreschi tradizionali? In questo e in altri saggi che poi per tuo conto ti leggerai, insomma, Flusser spiega che la caratteristica fondamentale di queste immagini è che esse sono state prodotte da delle macchine seguendo certi particolari programmi. Ancora più chiaramente nel libro che si chiama Per una filosofia della fotografia, ma anche in qualche saggio qua dentro, diciamo, lo trovi, Flusser ci spiega che in realtà queste immagini tecniche sono prodotte da da questo insieme di macchine. Lui pensa principalmente, quando scrive ovviamente, alle macchine fotografiche analogiche della sua epoca o alle macchine da presa, diciamo, chimiche del cinema o elettroniche, elettromagnetiche, ma sempre analogiche della televisione. Ovviamente non pensa, non può, diciamo, pensare se non in modo, un po' ci pensa, un po' ne parla anche delle immagini digitali e del computer, però alla sua epoca non sono ancora così sviluppate. Però in realtà quello che dice vale, io credo, in gran parte anche per le immagini diciamo digitali. Ma facciamo come lui e focalizziamoci, siccome il libro in cui questa teoria è espressa più chiaramente, più articolatamente, è quello per una filosofia della fotografia, pensiamo anche noi alle immagini fotografiche. La tesi di Flusser è che, è una mia parafrasi, lui non ha mai usato questi termini, ma io la leggo così, è che l'apparato, cioè l'insieme delle tecniche con cui si producono le immagini fotografiche, è talmente potente che la sua intenzione surclassa quella degli esseri umani. Supera, vince, assorbe, condiziona. Le fotografie, dice Flusser, sono immagini che il fotografo crede di, virgolette, creare, in cui il fotografo crede di trasferire la propria intenzione. Ma in realtà queste macchine, diciamo, l'apparato è talmente strutturato e talmente potente, cioè l'insieme delle tecniche con le quali si registrano queste immagini, è talmente potente che in realtà queste immagini rispondono a quello che lui chiama il programma dell'apparato. Ecco, torna il termine programmare. Queste macchine sono programmate per fare delle immagini e non potranno fare mai altro che delle immagini di quel tipo, cioè che non potranno fare mai altro che le immagini previste dal programma della macchina. Quindi, per quanto il fotografo o l'artista si sforzi, non può sfuggire, secondo lui, a questa, chiamiamola, predeterminazione, insomma, no? Delle immagini tecniche. Le immagini tecniche sono immagini, sono il prodotto di un programma generale. Ora, questo programma, attenzione, non è soltanto un programma tecnico. È un programma tecnico, è un programma sociale, è un programma di... D'altra parte, basta che pensiamo al modo in cui in cui è nata la fotografia, e alla illusione o alla coscienza o al discorso che ha accompagnato a lungo la nascita della, come dire, fotografia, e cioè che la fotografia fosse una copia fedele della realtà. Nel saggio, in un saggio di Rosalind Krauss, compreso nel volume, mi sembra, Teoria e Storia della Fotografia, si fa un commento su, adesso non ce l'ho dietro, quindi mi sfugge il riferimento preciso, si fa un commento su una delle prime raccolte di fotografie a stampa, stampate all'inizio del Novecento, comparsa all'inizio del Novecento, in America, e non mi scappa il nome del fotografo, prima che ce lo cerchiamo, eventualmente la prossima volta, se ce la faccio, a tirare fuori il libro della Kraus, che sta ancora nelle casse. Si può in qualche modo trovare anche su internet. C'è una famosa foto, che è la foto di un pagliaio, di un pagliaio americano, nella quale c'è questo pagliaio e c'è un badile, una vanga appoggiata a questo, e si vede l'ombra di questa cosa. No? In questo libro si commenta questo fatto dell'ombra, eccetera, cioè del fatto che è una ulteriore garanzia di, virgolette, veridicità della foto. E, come dire, in realtà Rosalind Krauss trae delle conclusioni che non sono propriamente le stesse di Flusser, ma potrebbero essergli, come dire, avvicinate. E cioè che il modo in cui quell'immagine si compara, insomma, si, diciamo, rapporta alla realtà fisica originale che dovrebbe averla creata, questa immagine, secondo la nota formula di Roland Barthes, secondo cui quando si vede una foto, la foto è una sorta di immagine della morte, perché dice c'è un oggetto che è stato là. Questa cosa ovviamente scompare totalmente con la fotografia digitale, ma finché si parla di foto analogiche, questo succede. Bene, Rosalind Krauss in qualche modo argomenta che nell'accoppiata realtà-immagine, diciamo, di quel pagliaio con la vanga appoggiata sopra quella foto e il pagliaio reale con la vanga reale appoggiata sopra, è impossibile per lo spettatore, per colui che guarda la foto, in realtà determinare, come dire, essere sicuro che questa sia la copia di una, come dire, realtà, perché la realtà non c'è più quando io guardo la foto. È rarissimo che io sia in grado di che io sia in grado di guardare contemporaneamente o a breve distanza di tempo una scena reale e la stessa scena fotografata. Io vedo solo la scena fotografata. Quindi in qualche modo questo rapporto influenza anche, se non la scena reale, la mia percezione della scena reale. Cioè io mi faccio da una foto, in pratica, mi crea nella mia mente una specie di fantasma di una scena reale, che non ho mai visto, di una scena concreta, fisica, no? di un soggetto, di un oggetto reale, fisico. Questa cosa è chiarissima nelle foto delle persone. Lo dico perché ho messo ieri su internet, cioè un mio amico meno sensibile di me alla privacy ha messo su internet una foto mia e sua che io gli avevo spedito in forma totalmente privata, lui invece l'ha messa in forma pubblica sulla sua cosa, quindi ovviamente si è scatenata, ed è una foto del 1980 in cui sia io che lui abbiamo un tot di anni di meno. Allora, questa cosa ha dato luogo nel giro di poche ore a cui anch'io colpevolmente indulto, perché se non mi fossi messo a scrivere anch'io forse la cosa finiva prima, ma insomma. E quindi allora prendiamo quella foto, se l'hai vista, se tu non l'hai vista, sì, tutte l'hanno vista. Allora, ok, quella foto lì, parliamo di quella foto. Adesso voi non conoscete, come dire, non conoscete gli altri due che sono nella foto, ma conoscete me. Conoscete me, conoscete me è un'affermazione azzardata, piena voi siete ragionevolmente sicuri che quella persona che sta guardando l'obiettivo in quella foto con le mani così in un gesto sia io? Siete sicure? Ragionevolmente sicure. Cosa? Non lo stesso, però. Lì c'è una persona che in qualche modo ha dei rapporti con me, certo. Ma voi non eravate a Ferrara nel settembre del 1980 quando venne scattata quella foto? Cioè parliamo ormai di... Cosa? Non eravate ancora nati, quindi non ci potevate essere. Parliamo ormai di 31 anni fa, non dell'altro ieri, no? 32 anni fa, giusto? Che avevo fatto il conto giusto? 32, nel 1980-2012, a occhio direi che ci sono 32 anni lì. Allora, 32 anni fa c'era una persona che assomiglia forse un pochino al Caronia di adesso, che però ha tutti i capelli, non si vede che ha tutti i denti, ma li ha, che nel modo in cui è fissato, quello è un gesto tipico di Caronia, non lo so chi possa pensare una roba di questo genere, può darsi che si possa pensare come posso pensare. Se voi conosceste anche gli altri due personaggi, che ovviamente sono più giovani di me, in quella foto lì, io in quella foto lì avevo 36 anni, loro ne avevano poco più di 20, no, 20, 24, 25, tutti e due, sono due genovesi. Io non stavo più a Genova da un sacco di tempo, quindi non c'è alcuna, li avevo trovati per caso. Di quale realtà quella foto per voi è il documento? Di quale realtà può essere il documento? Per voi, come per tutti quelli che... Per certi versi anche per quelli che sono stati lì, per quelli che stavano lì dalla parte dell'obiettivo, dalla parte della macchina fotografica, di chi ha ripreso la scena, per esempio, o di quelli che stavano vicini, o di quelli che stavano nelle sedie più avanti, che comprendono, per esempio, il tavolo degli oratori, a cui anche io e almeno uno dei due siamo poi stati, o prima o dopo di quella foto, questo non lo posso sapere, no? È un po' difficile. Allora, una foto è comunque sempre una ricostruzione di qualche cosa che non è noto, che non è conosciuto, che non ha, per quanto potente sia questo pregiudizio, questo pensiero, questa conclusione, che quella foto è la traccia di qualche cosa, come dice Barthes, ma questo qualche cosa chi l'ha mai visto? Walter Benjamin, a cui torneremo dopo in un altro testo che non mi sono portato, ma che magari facciamo la volta prossima se c'è tempo, e cioè nella piccola storia della fotografia, formula un concetto che poi è stato sviluppato parecchi anni dopo, cioè in anni, vabbè, insomma, 20, 30 anni dopo, negli anni 50, soprattutto da un fotografo italiano che si chiama Franco Vaccari, e che dice Benjamin in quel saggio, nella piccola storia della fotografia, in parte anche c'è un piccolo passaggio, credo, dell'opera d'arte nell'epoca della fotografia tecnica, che dice una cosa simile. Dice, la fotografia ha delle caratteristiche tali per cui vede delle cose che l'occhio umano non vede. Noi abbiamo sto diavolo di limite del decimo di secondo, che è il tempo della persistenza dell'immagine sulla retina, che è la vera causa che dà origine, cioè che consente quella meravigliosa illusione che è il cinema, in cui noi crediamo di vedere degli oggetti che si muovono, invece non c'è nessun oggetto che si muove al cinema. Sono dei fotogrammi successivi nel cinema chimico tradizionale, ma anche nel cinema diciamo digitale, sono dei fotogrammi successivi di immagini ferme che, proiettate a una certa velocità, ci danno l'illusione che quelle immagini si muovano, ma dove sta il moto? Non c'è nessun moto, virgolette, reale. L'esempio famoso di un precursore del cinema, cioè di Edward Muybridge, che negli anni, fra il 1970 e il 1980, si inventò quelle curiose batterie di macchine fotografiche e fece queste immagini di un sacco di persone, di saltatori, nadatori, del cavallo, l'immagine del cavallo famosa in cui si lascia il punto del cavallo alle quattro zampe, tutte e quattro sollevate da terra. Chi la sapeva quella cosa prima che ci fosse Muybridge? Nessuno si era mai accorto, perché le tiene sollevate per una frazione così infinitesimale, così rapida di tempo, che l'occhio non lo può registrare, no? Allora, dice praticamente Benjamin in questo saggio, c'è una specie di inconscio ottico. La macchina vede delle cose che la nostra coscienza non vede, quindi è l'analogo dei processi psichici. Che la nostra coscienza, ci sono dei processi psichici, ci sono delle cose che avvengono dentro di noi che la nostra coscienza non conosce, che non sa. Noi abbiamo il nostro io cosciente è soltanto una punta di un iceberg di tutta un'altra parte sommersa che noi non conosciamo. La tecnica, diciamo, generalizzando un po', insomma, Vaccari generalizzò, e io anche generalizzai prima di conoscere Vaccari, anche se Vaccari l'aveva scritto. Vaccari, che è quello che ho fatto per primo, generalizzò e quindi parlò di inconscio tecnologico, non solo ottico. Tutta la tecnologia in qualche modo è collegata in qualche maniera ad un'attività inconscia, insomma. Il punto di vista di Flusser non è esattamente questo, ma credo che possa essere messo in contatto con questo. Perché se noi cerchiamo di declinare in qualche maniera da un punto di vista sociale questa nozione dell'inconscio, arriviamo vicini a ciò che Flusser ha chiamato l'apparato. L'apparato ha dei modi di funzionare, cioè l'insieme delle tecniche con le quali si generano le immagini riprodotte tecnicamente, cioè quelle che Flusser chiama le immagini tecniche. Quindi la fonte delle immagini tecniche è un insieme di macchine più o meno connesse tra loro, poi se sono con l'epoca della foto digitale e con la connessione in rete, tutto questo si amplifica, però è già contenuto in nuce anche nella fase analogica di queste immagini, no? Allora, la tesi di fondo di Flusser è questa. Le immagini tecniche, in quanto prodotte dall'apparato, sono un prodotto, sono un riflesso, sono una realizzazione dell'intenzione dell'apparato. Nessun essere umano, nessun fotografo, il quale, attenzione, il quale non si ponga in maniera consapevole, e vediamo se questo è possibile o no, un superamento dell'apparato, ma si limita ad utilizzare l'apparato, magari in forma, come dice lui, come può pensare lui, virgolette, creativa, e qui evidentemente possiamo pensare a tutta la cosiddetta fotografia d'arte, eccetera, eccetera, eccetera, in realtà, nonostante le sue ottime intenzioni del fotografo, cioè dell'agente umano, in realtà questo fotografo, questa persona che aziona la macchina fotografica, non fa altro che realizzare una delle molteplici, numerosissime possibilità già previste dalla macchina fotografica. La macchina fotografica non può fare altro che le immagini che sono previste dentro il suo programma. È un programma terribilmente vasto, è un programma che quindi ci può illudere sul fatto che noi abbiamo che noi abbiamo prodotto una virgolette opera d'arte, o che abbiamo prodotto una virgolette ma in realtà è un'illusione. Beh, allora diavolo, però sì, vabbè, questa è una cosa terribile, perché Dio buono, c'è questo apparato che ci schiaccia e noi come diavolo facciamo, e tutto il nostro tentativo, tutta la nostra, le nostre ottime intenzioni di fare qualche cosa che invece, per cui come dire, l'attribuzione del senso delle cose che facciamo sia sotto il nostro controllo, tutto questo è sembra dirci Flusser, è un processo illusorio. Questo è un suo pensiero, suo originale, non viene da nessun altro. Allora, volendo, il, però è una cosa solo apparente, secondo me, il, come si chiama? Accidenti, mi scappano le parole a volte. Il precursore, insomma, l'antecedente più o meno diretto di una posizione del genere sono le posizioni della scuola di Francoforte, cioè di Horkheimer e di Adorno sull'industria culturale, grosso modo. Già negli anni, fine anni 30 e primi anni 40, Horkheimer e Adorno, in un famosissimo saggio chiamato La dialettica dell'illuminismo, in un libro chiamato La dialettica dell'illuminismo, in cui era contenuto un saggio sull'industria culturale, che è per, argomentavano che è in qualche maniera impossibile sfuggire alle prescrizioni o alle, come dire, che l'industria, insomma, culturale, che noi ci illudiamo di fare cultura, che nell'epoca dell'industria, che la cultura industrializzata, detto in altri termini, come dire, è la, costituisce una serie di esiti predeterminati che sono diretti secondo le intenzioni dell'apparato dell'industria culturale, quindi sono le case editrici nel campo dei libri che determinano indirettamente il contenuto dei libri, non tanto l'autore. Che ogni autore di libri, ogni autore di film, ogni creatore, tra mille virgolette, quando esce da una dimensione artigianale ed entra in una dimensione industriale, secondo Horkheimer e Adorno, perde la sua autonomia, cioè si trova costretto, anche se non è consapevole, a fare più o meno le cose che l'industria culturale lo sta indirizzando a fare. Teniamo conto che sia Adorno che Flusser scrivono in una situazione del capitalismo nella quale il capitalismo è ancora molto primitivo, è il capitalismo classico, gli o quello anni sono questi qua di Adorno. Gli anni 30, che scrive 1930, sì. Allora il libro Dialettica dell'illuminismo uscì nel 1947, mi sembra, quando Adorno e Horkheimer erano già negli Stati Uniti, ma è formato di diversi saggi, tra cui una bellissima rilettura dell'Odissea in termini moderni, e il saggio sull'industria culturale è stato scritto comunque negli anni della guerra, cioè tra il 42, il 43, il 44, loro erano già negli Stati Uniti nel 32-33, e Benjamin cercò invano di andare, diciamo, lì da loro. Benjamin era era una sorta di personaggio, diciamo, laterale, minore di questo Istituto per le Scienze Sociali di Francoforte, guidato da Horkheimer, di cui Adorno era l'esponente più prestigioso, ma Horkheimer e Adorno erano, cioè, c'erano delle cattedre universitarie, mentre Benjamin era non è mai entrato nel sistema universitario, non era neanche un precario come noi, era proprio uno che non aveva proprio voluto nell'università, nonostante che Adorno abbia cercato, non si sa con quanta intensità, con quanta buona volontà, dicono alcuni manini, ma insomma, di fargli avere un posto, lui ovviamente sarebbe voluto, e quindi bene è uno che per tutta la sua vita è, diciamo, campava scrivendo articoli, infatti ha scritto una quantità di cose incredibili, ma articoli che possono sembrare anche, come dire, superficiali, per questo poi si occupa di tanti argomenti, insomma, apparentemente meno. Allora, siamo sia Horkheimer e Adorno, anni 30-40, sia Flusser, anni 70-80, Flusser già ovviamente al limite, ma insomma, diciamo, scrivono tutti e due, i primi due nel pieno del capitalismo industriale. Flusser scrive al tramonto del capitalismo industriale, ma ancora non è emerso neppure ai tempi di Flusser, sta emergendo quando lui sta nascendo negli ultimi anni della sua vita, questo capitalismo post-industriale o capitalismo della conoscenza o capitalismo, il quale però apparentemente peggiora ancora le condizioni dal punto di vista dell'autonomia della cultura, perché tutto sommato ancora ai tempi di Benjamin, di Benjamin, insomma, di Adorno, dagli anni 50 fino anche agli anni 60, sì, Horkheimer e Adorno scrivono, dicono che la logica industriale influenza la cultura, eccetera, eccetera. Parlano di una industria culturale, ma l'industria culturale dei tempi di Adorno e di Horkheimer è ancora un'industria, come dire, anomala. Non è il settore fondamentale dell'industria capitalistica, la quale invece in quei tempi, fino agli anni 50 e 60, è rappresentata dall'industria delle merci materiali, in particolare dei beni di consumo durevoli, automobili, frigoriferi, navi, aerei, quello che sia, oggetti, o anche lampade o cose del genere, ma insomma, diciamo, oggetti materiali. L'industria culturale sì, ha una logica industriale, però in qualche modo l'industria culturale classica opera in maniera contraddittoria, rende delle merci delle cose che merci non sono, e cioè il linguaggio. Rende merce qualcosa che merce non è. Il fatto che il linguaggio a quell'epoca continui ad avere una realtà, una origine delle regole di produzione, dei modi di produzione, di autoproduzione, diversi da quelli standardizzati dell'industria, implica che, certo, viene mercificato, vengono mercificate le opere, i libri sono merci, non c'è dubbio, sono merci fino dall'inizio, cioè la prima Bibbia di Gutenberg è una merce, perché è una roba siamo prodotta industrialmente, torchio a mano, ma comunque industrialmente rispetto all'amanuense che copia il codice a mano, viene messa su di un mercato e ci si ricava un profitto, quindi è una merce. Però il contenuto della Bibbia, la Bibbia in quanto tale, non è una merce, è un prodotto culturale del popolo ebraico, poi del popolo cristiano e poi di tutte le storie che ci siamo raccontati, credo anche in questo. No? Chiaro questo? Quindi, per quanto pessimistica sia e per quanto come dire, desolante, se vogliamo, da un punto di vista sia la visione di Horkheimer e Adorno, nella loro industria culturale in qualche maniera rimane un residuo non mercificabile, diciamo, Il residuo, se vogliamo usare un termine pomposo, del pensiero, dobbiamo dare un termine più terra-terra e più, come dire, materiale, il carattere linguistico dell'opera. Il carattere linguistico dell'opera è un carattere non mercificabile ai tempi di Horkheimer e Adorno, ma ahimè, il capitalismo, come tutte le cose umane, è un prodotto storico, quindi può cambiare, quindi cambia, e di fatto è cambiato nel corso degli anni 70, cioè proprio esattamente nel 70 e poi in modo più chiaro nel corso degli anni 80, e attraverso una serie di trasformazioni che ormai sono state ricostruite, su cui ormai c'è una coscienza negli studiosi contemporanei, ha fatto un salto di qualità, ha inglobato all'interno del processo di valorizzazione tutta una serie di cose che fino agli anni 60-70 ne stavano fuori, ivi compresa la prima cosa che ha inglobato è stato esattamente il linguaggio. E il carattere linguistico, relazionale e addirittura affettivo delle azioni umane. Mentre il capitalismo classico era un capitalismo delle merci materiali e ovviamente condizionava con questa cosa, già riusciva a condizionare tutto il resto della società, ma il resto della società che il capitalismo condizionava era un resto della società. L'operaio era schiavo del capitale nel tempo di lavoro, ma poi aveva un tempo libero nel quale gli era difficilissimo riuscire a togliersi, ma in linea di principio è tornato a casa, l'operaio aveva una libertà di scelta che non era totalmente, era in gran parte illusoria perché le condizioni materiali, i soldi gli impedivano, però di fatto, voglio dire, se aveva delle particolari doti di inventiva, se aveva delle particolari, poteva togliersi e poteva dire, vabbè, io però qua adesso mi faccio i cazzi miei, mi ubriaco come una bestia, in genere facevano così, ovviamente, ma era comunque un modo per sfuggire alla, no, alla catena e al vincolo della, come dire, produzione. Oppure picchio mia moglie, oppure mi faccio picchiare da mia moglie, poteva anche succedere in casi di quel genere, o litigo, faccio delle risse, faccio delle cose, faccio qualsiasi cosa in modo molto più... molto, molto più raro. Il semplice fatto di andare al cinema in quei tempi era comunque qualcosa, anche se il cinema era un settore culturale, era un settore industriale, di un'industria culturale, ma industriale, però in qualche modo il gesto di visione, diciamo, l'atto di fruizione singolare del cinema, era singolare, era relegato a una dimensione privata, eccetera, eccetera, eccetera, ma voi tutti sapete che poi in realtà i primi, diciamo, cineasti in un modo o nell'altro, tutti quanti, fino agli anni 20-30, quelli russi in modo più consapevole, ma anche quelli americani, anche quelli occidentali, tentavano comunque di trasformare questa visione individuale, isolante, il buio della sala, eccetera, in qualche maniera in una esperienza collettiva. No? Se avete visto il Dracula di Scorsese, sì. Quello con Robert De Niro, voi lo vedete, queste prime sale, c'è una scena in cui si vedono le prime sale, è stato spostato di pochi anni, queste prime sale buie cinematografiche in cui si capisce, e lì si vede bene questa tensione tra il carattere individuale della fruizione, diciamo, del cinema, il buio e quindi l'isolamento, che non è come il teatro, certo anche a teatro c'è il buio, ma chissà perché a teatro siamo a teatro, oppure quando andiamo a sentire un concerto, per non parlare dei concerti rock in cui la cosa è più chiara, ma anche un concerto di musica classica, siamo un po' più consapevoli della presenza degli altri, sentiamo di trovare il pubblico. Al cinema non facciamo parte di un, al cinema tradizionale, dove il buio, non facciamo parte di un pubblico, tanto meno oggi che ci guardiamo i film a casa nostra, scaricati da internet o comprati in casi più rari sui DVD, e al massimo ci abbiamo due o tre amici con noi che vedono il film, o ce lo guardiamo da soli, sono casi nostri, però c'è già questo isolamento. Però a quell'epoca lì, allora, insomma, per adesso non mi metto troppo a canna al fuoco, in qualche maniera, diciamo, l'attività culturale ai tempi del capitalismo industriale, ha ancora una dimensione di autonomia. C'è un conflitto, c'è una lotta, c'è un tirarsi da una parte e dall'altra, l'industria cerca di assorbire la cosa, però non c'è nulla di, diciamo, garantito. Ma nel momento in cui invece abbiamo un capitalismo post-industriale, un capitalismo cognitivo, un capitalismo post-fordista, come è stato chiamato, insomma, che è quello contemporaneo, nato contemporaneo ormai, no, da circa 30 anni, insomma, perché è nato verso la fine, ha cominciato a svilupparsi verso la fine della metà degli anni 70, quindi ormai ci siamo dentro in modo... Bene, e questo capitalismo, per una serie di motivi, primo fra tutti l'esistenza tecnica delle, diciamo, l'esistenza delle tecniche di trattamento e circolazione dell'informazione date dall'informatica, attraverso questo il capitalismo è stato capace di assorbire al proprio interno, nel processo quindi di valorizzazione, di creare valore economico, da una serie di cose da cui prima non era in grado di trarre valore economico. E la prima di queste cose è la nostra produzione linguistica. Il nostro linguaggio oggi è direttamente merce, è dentro il processo di produzione della merce. Qualsiasi cosa, anche le cose che vi sto dicendo io adesso, sono dentro un processo di produzione della merce. Vedo che vacilli, che dici, ma non si può suddire questa cosa. Forse si può suddire, però non si può suddire se non siamo coscienti di questa cosa, perché se ci illudiamo, come molta gente, come la gran parte degli intellettuali di oggi, in primo luogo gli intellettuali di sinistra, che sono i peggiori da questo punto di vista, i peggiori, perché sono convinti di questa, non gli entra in testa, che la cultura ormai sia un pezzo del processo di valorizzazione capitalistico, e quindi continuano a baloccarsi con l'idea che invece loro sono autonomi, che sono intellettuali, che sono qui, che sono là, che quindi che l'intellettuale può fare, può essere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi apparentemente questo, come dire, questa impostazione di Flusser, come per certi versi anche quella di Adorno, ma quella di Flusser in maniera molto più radicale, sembrerebbe non lasciarci alcuna via d'uscita, se non quella di essere tutti succubi e senza più, senza nessun residuo di autonomia. Paradossalmente, e lo dico per gettarvi diciamo ancora di più nella funera disperazione, ma è così, perché se non andiamo sino nel ventre della bestia non ne usciremo, ragazze, quindi non pensiamo che possiamo uscirne facendo i furbi, dobbiamo sapere come stanno le cose, poi forse si potrà vedere come si può uscire, però intanto bisogna... da questo punto di vista anche il concetto di inconscio ottico e di inconscio tecnologico in qualche modo risulta una delle componenti di questo, come dire, processo, perché quale mai logica può esprimere l'inconscio tecnologico se non quella che Flusser chiama la logica dell'apparato, l'intenzione dell'apparato, la volontà forsennata di realizzare le intenzioni dell'apparato, di farci esaurire tutta la possibile gamma di immagini contenute nel programma dell'apparato. Rimane aperta la questione se anche per i testi si possa formulare una teoria del genere, ovviamente il Flusser non lo fa, però volendo uno potrebbe dire, vabbè, radicalizziamo, anche i testi in fondo non sono altro che una combinatoria, eccetera, eccetera, eccetera. Da quando è comparso il computer, cioè quindi da quando sono comparse insomma queste possibilità, no? È emerso, diciamo, in modo più prepotente il carattere combinatorio anche dell'attività, diciamo, linguistica, la famosa battuta che una scimmia battendo a caso i tasti di una macchina da scrivere, vecchia ovviamente metafora, oggi possiamo dire un computer, ha una, per quanto remota, possibilità di produrre essa l'Amleto di Shakespeare. Certo, non sono altro che paroline, può darsi che una scimmia a caso, possiamo essere sicuri che non lo posso mai fare, ma è una delle possibilità. Il solo fatto di poter concepire una cosa del genere ci getta qualche dubbio anche sulla questione dell'autonomia dei testi, no? Flusser esprime più o meno il concetto che vi ho detto adesso così in questo saggio sullo status delle immagini. Non possiamo remare contro la corrente delle immagini alla volta delle buone vecchie immagini. Se non vogliamo affogare, dobbiamo o cercare di remare più velocemente della corrente o imboccare una diramazione laterale nella speranza di trovare un punto di ancoraggio. Lo ha detto meglio lui di quanto potevo dirlo io, no? È così. O cerchiamo di remare più velocemente, cioè di accelerare in modo tale noi questo processo di automatizzazione, da fare in modo che in qualche maniera si converta nel suo contrario, grosso modo, oppure dobbiamo riuscire a trovare, se c'è, una qualche diramazione laterale. Produrre le buone vecchie immagini, come le chiama lui, cioè le immagini artigianali, i quadri, non si può più. Anche chi oggi dipinge quadri lo fa nelle condizioni in cui ci sono queste immagini tecniche nuove, quindi anche le sue immagini, anche quando vengono fatte artigianalmente, eccetera, eccetera, è come dire, per questo che gran parte della pittura contemporanea, quella che piace a Sgarbi, tanto per avere, è come dire, una non solo è un anacronismo, ma è una stupidaggine, cioè perché è un tentativo di rifare delle cose che andavano bene quando c'erano delle condizioni produttive, diciamo, differenti. Allora, poiché non possiamo più produrre le buone vecchie immagini, dobbiamo o creare immagini mobili e sonore molto più nuove di quelle che ci stanno sommergendo, quindi remare più velocemente della corrente, oppure produrre delle immagini quiete. Questa è la proposta di possibile via d'uscita di Flusser, le immagini quiete, in tedesco Stille Bilder, Bilder immagine, in tedesco Bilder è il plurale di Bild, Stille Bilder, immagini quiete, che superino il diluvio delle immagini. Questa affermazione non può semplicemente valere così, deve trovare una base d'appoggio. In primo luogo bisogna mostrare in modo plausibile perché non sia possibile tornare alle vecchie immagini. Poi, come possiamo mettere fuori gioco, tecnicamente, esteticamente, esistenzialmente, le immagini che minacciano di affogarci. E infine, come e se in assoluto, possiamo produrre immagini quiete, come difesa e salvezza dalle immagini mobili e sonore. Perché dice quiete? Perché lui dice, non è questo turbinio, questo flusso, questa cosa che ci sommerge. Allora, dice, molto probabilmente, cerchiamo, vediamo se è possibile produrre delle immagini quiete. Le buone vecchie immagini venivano create tutte le volte che uno si distanziava da un oggetto per considerarlo e per rendere accessibile ad altri ciò che aveva visto. Per fare l'immagine, le buone vecchie immagini, bisogna mettersi a una certa distanza, come Las Meninas. Ti metti a una certa distanza, hai i tuoi piani, poi puoi addirittura rappresentare nel quadro la stessa operazione tua che hai fatto, però c'è una distanza. E quindi rendere accessibile ad altri ciò che il pittore aveva visto. Questo passo indietro dall'oggettivo al soggettivo, la svolta susseguente nell'intersoggettivo, dal soggettivo all'oggettivo, guardo fuori, creo una certa, virgolette, oggettività, anche se mia. Poi la rappresento e la metto in comune con altri, quindi di nuovo intersoggettivo. Questo passo indietro e la svolta susseguente costituiscono un gesto di straordinaria complessità ed entrambi gli esempi storici già ricordati possono illustrarlo. L'uomo di Lascaux guardava il suo oggetto, per esempio un cavallo, da un punto di vista soggettivo. Si trattava di una veduta fuggevole e privata e questa doveva essere fissata e resa pubblica per renderne partecipi gli altri. Per fare questo l'uomo di Lascaux cifrava la sua veduta in simboli e con spatola e colori trasponeva questi simboli su una parete di roccia. Chi conosceva il codice e passava di fronte alla parete poteva decifrare l'intenzione e ricevere il messaggio. Da tutto questo il gesto del fiorentino non si distingueva in modo essenziale se non per un aspetto. L'oggetto a cui il fiorentino si riferiva non era altrettanto oggettivo, ma era già immerso in una precedente soggettività. Era per esempio una scena biblica. Tutta la pittura sacra, non possiamo dire che è una pittura realistica, non dipinge nessuno, poi certo i modelli che si prendono sono Caravaggio per fare le Madonne, prendeva le puttane sotto casa sua, insomma, per fare Maria Maddalena, queste robe, ma insomma anche le Madonne, eccetera, eccetera, per fare i pastori, però poi la scena che è lì non c'era mai stata, non si può dire di nessun quadro della pittura sacra, di nessun quadro allegorico, l'amore sacro, l'amore profano di Tiziano, dove sono scene pensate dall'autore, quindi c'è questa differenza, lui dice, tra le immagini storiche e quelle preistoriche. Ciò significa che il codice in cui il fiorentino cifrava la sua veduta consisteva di simboli già istituiti, in cui egli inseriva i propri. Detto altrimenti, l'immagine di Lascaux è preistorica e può essere sempre di nuovo decifrata da ogni destinatario in base al suo proprio metodo. Può essere sempre decifrata di nuovo, è meno carica, cioè il sistema di codificazione delle immagini preistoriche è più labile, più diciamo aperto di quello delle immagini storiche. L'immagine del fiorentino è storica e per decifrarla è necessario conoscere la storia. Se tu non sai la Bibbia e vedi una tipa incazzatissima, una donna incazzatissima con una spada in mano e la testa mozza di uno nell'altro, dici chi è questa bastarda, adesso ti e invece è una eroina, perché è Giuditta, perché ha tagliato la testa a Toloferne, che è un grande stronzo e che si è pure permesso per ovviamente riuscire, adesso ho perso il segno, accidenti, ma lo ritroviamo. Proviamo, no? Ecco, lo conosco, quindi deve essere questo. Per quello dove sta ho perso il no, trovato. Le immagini non possono più essere prodotte in questo modo, cioè né in modo preistorico né in modo storico. La scienza moderna, a partire da Cartesio, si è posta a distanza dall'oggettivo e dall'invenzione della fotografia in poi ha approntato degli apparati finalizzati a fissare e codificare ciò che si vede. Se chiamiamo immaginazione, è un termine, l'ha messo perché in tedesco non c'è il termine, l'immaginazione è un'altra, lui si è coniato questa strana cosa che sembra più l'imagination inglese. Comunque, se chiamiamo immaginazione, tra virgolette, il gesto complesso del produrre immagini descritto in precedenza, allora si deve dire che la scienza e la tecnica moderna, al fine di perfezionarla, hanno spostato l'immaginazione umana negli apparati. L'immaginazione è stata spostata nelle tecniche di produzione automatica delle immagini. Da allora nessun uomo è più in grado di entrare in concorrenza con gli apparati. E la questione è ancora più intricata, e anche più intricata, ogni qualvolta osserviamo un'immagine a Lascaux come a Firenze, noi assumiamo il punto di vista degli apparati, anche quando guardiamo noi le immagini vecchie, ormai abbiamo il punto di vista dell'apparato, come i giapponesi che vanno a vedere la Gioconda come se fosse una sorta di replica, di una sorta di archetipo, ma di cui gli sfugge totalmente il significato, no? Ma è come se guardassero la foto, una foto del Monte Fuji, insomma, o di qualche cosa loro. Noi siamo al punto di vista degli apparati perché si impregnano l'intera nostra immagine del mondo. Di conseguenza noi riceviamo, ovvero decifriamo le vecchie immagini nel contesto dell'immagine moderna del mondo, apparaticamente. Allora, vediamo cosa sono, secondo Flusser, queste immagini quiete che secondo lui potrebbero essere prodotte, che potrebbero farci uscire da questa cosa. Allora dice, vabbè, da un certo punto di vista noi potremmo provare a fare, e in qualche modo, dice, la via d'uscita del produrre, dell'intensificare noi, del correre noi più veloci della macchina, lui dice la si può sperimentare con quello che lui chiama la società dell'informazione telematica, il saggio, abbiamo detto, dell'89, del 91, e quindi lui è del 91, siamo ancora alla preistoria, alle origini, però già c'è qualcosa, quindi lui già, diciamo, lo vede. Adesso non leggo questa parte perché è, virgolette, la più semplice, diciamo, è la via di YouTube. Moltiplicarle in modo da renderle sempre meno significative e quindi sottrarre anche da un certo punto di vista all'apparato la possibilità di renderle significanti a modo suo. È una roba un po' radicale, insomma, ma è come muoia Sansone con tutti i filistei. Per ammazzare i filistei ammazziamo anche Sansone. Per ammazzare il senso apparatico delle immagini, ammazziamo il senso delle immagini tout court. Può essere una via, se non abbiamo remore di tipo estetico. Certo, se siamo sgarbi non ci può andare bene questa, o anche se siamo tanti altri critici d'arte contemporanei meno cretini di sgarbi, molto più intelligenti, ma insomma anche in molti casi, anche di loro si può dire questa cosa. Ci vuole un certo cinismo per fare una roba del genere, però può essere una via che certamente è una via rischiosa e pericolosa, perché siamo come Paperino, è come dire che corre davanti all'incendio o che corre davanti all'alluvione, cioè abbiamo l'incendio, abbiamo il fronte del fuoco o il fronte dell'acqua che ci lambisce la schiena. Dobbiamo essere sempre quel micro millesimo di secondo più avanti del processo, diciamo, del diluvio tecnico. E non è sempre, infatti anche su YouTube capita questa cosa, che a un certo punto veniamo sommersi dal gorgo perché ci hanno ripreso, perché la possibilità di creare senso stupido, senso cretino, senso apparatico, certo, però c'è sempre, loro fanno un piccolo passo in più, aggiungono una siccome hanno in mano anche loro una produzione, anche l'apparato tecnico ha in mano ormai uno strumento linguistico, cosa che prima non aveva, quindi sono in grado di aggiungere quel qualche cosa, dire ah no, ma questo è il senso, no? E quindi tante delle nostre cose senza senso acquistano senso. Se ci pensate bene, è la stessa cosa che, diciamo, tentò di fare Dada agli inizi del Novecento, distruggere il senso totalmente, cioè togliere l'acqua nella quale nuotava il Moloch del significato borghese, insomma, della significazione ufficiale, togliergli l'acqua. Ci riuscirono in qualche momento, sì, però poi vennero riassorbiti pure loro, insomma, perché nel momento in cui c'è un mercato pure per le opere d'arte Dada e per le opere d'arte Fluxus, questa operazione vuol dire che è fallita sostanzialmente. Pensate che per togliersi da questo marchingegno infernale il più lucido fra i dadaisti, cioè Marcel Duchamp, smise di produrre arte per oltre 20 anni, quasi 30, e disse la mia arte è giocare a scacchi, che era il suo modo di produrre probabilmente l'equivalente di quello che Flusser chiama delle immagini quiete. Scelta, come dire, coraggiosa e non così stupida o così eccentrica come ci può sembrare. Poi certo, poi alla fine, prima di morire, fece di nuovo Etandone, ma insomma fece la sua ultima opera, però insomma fu anche un'opera. Allora, diciamo questa cosa, rischioso, si può fare, però insomma sappiamo che è una corsa contro il tempo, ci possono sempre prendere. Ma Ma dallo spaventoso diluvio odierno di immagini non c'è aperta solo questa fuga in avanti nel nuovo millennio, una volta constatato che gli apparati ci hanno reso impercorribile la via del ritorno alle immagini del passato. Esiste anche un'altra via d'uscita, ovvero la produzione di immagini quiete, che subdolamente devono beffare gli apparati sputa immagini. Per poter comprendere questa deviazione dal diluvio di immagini alla quiete contemplativa, una deviazione apparentemente semplice ma in realtà estremamente complessa, dobbiamo prendere in considerazione dapprima il concetto di apparato e poi il concetto di astuzia. In greco metis, i greci avevano una dea, i greci antichi avevano una dea, avevano varie dee dell'intelligenza. Atena era la dea Minerva era la dea dell'intelligenza razionale, dell'intelligenza, e Odisseo quindi aveva, essendo diciamo, prediletto di Atena, aveva una componente della sua intelligenza che di questo tipo. Però questa intelligenza era quella che era in grado di prevedere, fare i conti, eccetera, eccetera. Però c'era anche una intelligenza che era, e che ha anche con Odisseo, che è la parte non, diciamo, non atenaica, non atenica della sua intelligenza, che è la capacità di cogliere il tempo. I greci hanno, per dire cogliere il tempo, non usano il termine chronos, che è il tempo cronologico scandito, quindi la sociale, usano un altro termine che si chiama kairos. Kairos è il tempo, è l'istante che ci passa accanto, che noi vediamo solo per un attimo, se siamo in grado di coglierlo, di cogliere l'occasione, diciamo noi, più che il tempo. I greci dicono cogliere il tempo, prendere il tempo però usano questo kairos. Bene, c'è una dea che è invece, che si chiama Metis, meno famosa di Atena, non fa parte degli dei dell'Olimpo, eccetera, è una dea un po', come dire, minore. Però è in realtà è lei la vera protettrice di Odisseo. Odisseo, la scaltrezza di Odisseo sta principalmente nel saper cogliere l'occasione. Quando non c'è niente da fare, se ne stai con Calipso 7 anni, tanto non è che si sta male, però non si fa un cazzo d'altro, basta. Ma nel momento in cui salta fuori l'occasione, allora diciamo si va. La capacità di Odisseo di cogliere il Kairos è quello che lo fa resistere all'incantesimo di Circe, perché Circe non riesce a trasformare lui in maiale come ha trasformato tutti gli altri, perché tutti gli altri suoi sono gli altri suoi compagni sono un po', insomma, gnocchetti, beutini, non so, magari. Lui invece ha questa capacità di capire, di cogliere il Kairos, quindi tiene, certo, sa che cosa deve concedere a Circe, ma sapete bene che a Circe concede molto meno che a Calipso, eppure Circe era più pericolosa di Calipso, no? Dal punto di vista, perché aveva questo potere di trasformare, eccetera, eccetera. E quindi addirittura, una volta impadronitosi di Kairos, è in grado di contrattare praticamente i propri favori sessuali a Circe, in cambio del far tornare uomini, ma quindi riesce ad invertire il processo, non è più Circe che ha in mano, diciamo, il bandolo della matassa, ma con un cambio improvviso è lui. Questo è il Kairos, questa è la Metis. Flusser dice qualcosa del genere. Il concetto di astuzia, perché è astuzia, questa è l'intelligenza astuta. Gli apparati sono dispositivi tecnologici e la tecnologia è l'applicazione delle conoscenze scientifiche ai fenomeni. Le conoscenze scientifiche sono conoscenze che si acquistano mediante una presa di distanza dai fenomeni, realizzata in modo metodico. Per questo gli apparati sono dispositivi in cui la distanza scientifica dai fenomeni viene capovolta tecnologicamente. Detto altrimenti, sono dispositivi in cui l'astratto si converte nel concreto. Dietro a una macchina fotografica ci sta la conoscenza astratta delle leggi dell'ottica, della chimica, parliamo di quelle, come dire, tradizionali, o se no del mondo elettromagnetico o del mondo di quel cazzo che sia. Sono conoscenze astratte che però la macchina converte in concrete. Ops, attraverso questa roba faccio questo e ecco la concretezza. Ho riprodotto, ho registrato su una pellicola sensibile o in una memoria digitale le informazioni di luce, di colore, eccetera, relative a quell'immagine. quindi convertire l'astratto nel concreto. Per esempio, equazioni matematiche diventano immagini, come nel caso delle macchine fotografiche. Equazioni ottiche, chimiche, meccaniche per mezzo delle macchine fotografiche diventano visibili in immagini, ovvero i fenomeni da cui per astrazione sono state derivate le equazioni appaiono concretamente nelle fotografie. Da questa descrizione sin troppo abbreviata diventa chiaro che le immagini allestite da apparati tecnologici come le fotografie e tutte quelle che le hanno seguite si pongono rispetto alle vecchie immagini in modo rovesciato. Le vecchie immagini sono astrazioni soggettive di fenomeni. Astrazioni, chiaramente, perché uno deve avere in testa una forma. Quindi è l'autore astrae, vede delle cose concrete, fa una astrazione, la porta sulla tela. Quindi le vecchie immagini sono astrazioni soggettive di fenomeni. Le immagini tecniche sono concrezioni di astrazioni soggettive. È sottile il passaggio, però nelle immagini tradizionali, nella pittura, io ho di fronte dei dati, delle sensazioni mie, faccio delle astrazioni, organizzo le mie sensazioni, ciò che ho visto, lo cambio, lo altero, faccio un procedimento di astrazione, sono io che e poi lo porto sulla tela, ma è una astrazione di fenomeni, astrazione soggettiva di fenomeni, un soggetto ha fatto una astrazione dei fenomeni. Le immagini tecniche sono concrezioni, cioè cose rese concrete di astrazioni oggettive, l'astrazione della macchina fotografica non è soggettiva, funziona con le regole dell'ottica, della chimica, con le leggi fisiche, sono astrazioni oggettive queste, non soggettive. La macchina fa il processo inverso di quello del pittore, le rende concrete. Il pittore rende astratto e quindi comunicabile, perché c'è un'astrazione, poi certo che vedo l'immagine, ma il codice attraverso cui lui mi comunica quella cosa è una astrazione. Se io non condividessi questa astrazione non capirei il quadro, infatti l'aborigeno australiano non vede il quadro, non capisce il quadro, non è in grado di, perché gli manca, perché non ha lo stesso codice che gli consente di condividere la mia astrazione soggettiva. In realtà non vede neanche le immagini della macchina fotografica, perché gli manca proprio tutto, non che sia più scemo, ma gli mancano i codici. Comunque, allora, le vecchie immagini sono astrazioni soggettive di fenomeni, le immagini tecniche sono concrezioni, cioè cose rese concrete di astrazioni oggettive. La maggior parte dei fraintendimenti nella ricezione delle immagini tecniche si spiega a partire da questo rovesciamento. Anzitutto il fraintendimento che nelle immagini tecniche crede di scorgere immagini obiettive dell'ambiente circostante. Foto, film, video, tutte le immagini tecniche in generale sono prodotte da apparati programmati per codificare una conoscenza oggettiva. Solo chi conosce questo codice può effettivamente decifrare tali immagini. Poiché ciò presuppone delle conoscenze scientifiche, al cospetto di tali immagini, il destinatario normale è un analfabeta. Lo spettatore televisivo non sa pressoché nulla delle leggi elettromeccaniche, ottiche e acustiche su cui si basa il televisore e perciò non decifra le immagini, ma le reputa anzi come oggettivamente corrette. Se tu non decifri l'immagine, pensi che quello che vedi sia la realtà. Pensi che la foto sia la realtà. Pensi che la televisione sia la realtà, pensi che il video sia la realtà. E invece se tu sapessi come sono state fatte, capiresti che quello è un punto, è una concretizzazione di una astrazione oggettiva. Nonostante questo analfabetismo generale, o proprio sulla base di questo analfabetismo, il modo di vedere mediato dagli apparati tecnologici diventa vincolante. Noi tutti ormai guardiamo come se guardassimo costantemente attraverso una macchina fotografica. Certo, nel frattempo l'oggettività della conoscenza scientifica, così come si concreta negli apparecchi tecnici, è stata posta in discussione da più parti, ma queste critiche non arrivano sino al destinatario di immagini e di suoni. La casalinga di Voghera se ne strafrega di flusso, di caronia e anche di voi due. Si fa i cazzi suoi e continua a guardare la sua televisione come se fosse quello che è. Si può perciò sostenere che l'aspetto orrendo del diluvio di immagini di cui si è parlato potrebbe essere minato se si riuscisse a beffare gli apparati tecnologici che lo alimentano. Il modo migliore per venire a capo del concetto di astuzia è un excursus attraverso il latino e il greco, ahimè. C'è il latino ars, che significa artis, il nominativo di arte, ars, che significa anche qualcosa come agilità, dove bisogna pensare per esempio all'articolazione della mano, articolazione. In realtà probabilmente deriva il termine latino ars, da cui deriva l'italiano arte, l'arte, eccetera, eccetera, da una vecchia radice indoeuropea, ar, che indicava, che è la stessa di aratro, arare, che indica una azione tecnica sulla realtà, su una trasformazione tecnica realtà, quindi in questo senso ars non sarebbe tanto diverso dal tecne greco, insomma, no? Noi diciamo che poi è stato dopo che ha cambiato. Un verbo imparentato col sostantivo ars è il verbo articolare, esprimere chiaramente, ma in senso trasposto anche girare e piegare la mano, articolare. Il termine ars è tradotto soprattutto come arte, ma così facendo non bisognerebbe dimenticare il significato di maneggevolezza. L'equivalente greco di ars è il termine tecne. E tecne è rapportabile a meccanè, nel senso della maneggevolezza del lavorare, meccanico. Dunque, si dà anche meccanè tecne. L'origine di meccanè è l'antichissimo mag, che riconosciamo nel tedesco macht, che vuol dire potenza, forza, macht, di macht, e nel verbo mögen, che vuol dire, sempre in tedesco, volere, desiderare. Sempre questo una radice indo-europea, mag. L'intero concetto diventa chiaro quando del pianificatore del cavallo di Troia, Ulisse, si dice che è polimekanos, un aggettivo che lo caratterizza come inventore, che si traduce come ricco di astuzie, quindi polimekanos, ricco di astuzie. Metis qua non c'è ancora arrivato, ma voi tenetela presente, non credo che lui ne parli, di Metis. Però per dire uno che è ricco di astuzie, si diceva che è polimekanos, cioè ha molti meccanismi, è capace di articolare in molti modi diversi la sua mano, è capace di destreggiare, di trovare. Gli apparati sono dei dispositivi astuti, sono macchine, funzionano meccanicamente, sono macchinazioni, in breve sono tecnici, sono artificiali. E proprio perché sono astuti, meccanici, tecnici, dunque artificiali, essi grazie a un'arte acrobatica, un'arte capace di fare le capriole, possono essere a loro volta beffati dall'astuzia. È ciò in cui si sono impegnati coloro che oggi producono immagini quiete, anche se non sempre ne sono essi stessi consapevoli. Ogni immagine quieta prodotta oggi, non importa con quale metodo, con quale intenzione, è un tentativo di abbindolare gli apparati. Una simile immagine si rifiuta di essere distribuita monodirezionalmente perché si oppone strutturalmente all'apparato. Gli acrobati che producono queste immagini nel bel mezzo del diluvio delle immagini, non volendo avere nulla a che spartire con esso, meritano il nome di artisti in senso proprio, ovvero astuti manipolatori e ribaltatori degli apparati che vomitano lo spaventoso profluvio di immagini. La maggior parte delle fotografie, qui vi riassumo, non fa altro che realizzare l'intenzione che è preprogrammata nella macchina. Chi scatta la foto non fa nulla di diverso dall'otturatore automatico, segue le istruzioni per l'uso. Lo fa in maniera, anche quando lo fa in maniera, diciamo, creativa, non fa altro che fare quello. Il fotografo artistico cerca di estrarre dal programma della macchina qualcosa che non è ancora mai stato ricavato. Tenta di produrre immagini originali, ma se gli si lascia il tempo sufficiente, anche un otturatore automatico fa altrettanto. Anche la scimmia, se gli lasci il tempo sufficiente, batterà a macchina l'Amleto di Shakespeare. Esiste tuttavia un numero molto esiguo di fotografie in cui è possibile vedere l'esatto capovolgimento di questa intenzione. In esse ciò che conta è precisamente sorprendere con l'astuzia del programma della macchina fotografica e costringere l'apparato a fare qualcosa per cui non era stato costruito. L'intenzione dei produttori di tali fotografie è di creare delle immagini che si mettano di traverso rispetto al diluvio delle immagini. immagini che costringano gli apparati a funzionare contro il loro peculiare progresso apparatico. L'esporre e osservare tali immagini istituisce nell'oceano di immagini un'isola su cui non solo si trova rifugio, ma da cui si può anche tentare di riprendere in mano le regini da cui gli apparati si sono ormai svincolati. Qui sorge la domanda sul perché proprio le fotografie e non altre tecnoimmagini. Su questo effettivamente ci potete pensare, e per esempio non i video, dice lui, o gli ologrammi, ma il fotografare con la foto, non con il video o con gli ologrammi. A prima vista questa sembrerebbe una domanda mal posta. Non esistono forse ovunque delle esposizioni di immagini tecniche che tentano proprio questo superamento astuto degli apparati? Ma considerando le cose più da vicino, la domanda si rivela una buona domanda: perché solo le foto? Eccezione fatta per le macchine fotografiche, tutti gli apparecchi che producono immagini non sono ancora stati sfruttati integralmente e celano quindi ancora in sé delle sorprese per i loro utenti, perché sono più nuovi, le videocamere, le telecamere, eccetera. Ciò vale anche per la cinepresa: filmare sperimentalmente è ancora possibile. Filmare. E tutte le esposizioni artistiche citate in precedenza sono dedicate appunto a tali esperimenti e a tali apparati. La macchina fotografica invece va considerata ormai come del tutto trasparente, anzi come ridondante. E direi che la macchina digitale realizza sempre di più, è una robetta sempre più grande, ormai non c'è più neanche, è un pezzettino, un piccolo chip dentro un telefono, quindi è veramente la macchina ridondante, è stata... Però tu crei la realtà, nel senso, crei una realtà fisica che non è quella reale come era quella analogica. Certo, però è sempre un apparato che la crea, quindi la crea sempre in base a delle robe se gli lasci... Se la lasci fare come dice lei, in realtà poi la macchina fotografica del tuo cellulare digitale rifà quello che faceva la vecchia macchina analogica, quindi diciamo simula quel genere di cosa quando tu la usi in quel senso. Diverso quando fai un coprogramma e generi delle immagini, questo è diverso, di questo forse non parla. Questo è quando fai delle foto anche digitali, se le fai nel modo tradizionale è come se tu avessi una vecchia macchina fotografica, solo che non hai più la macchina per... Quindi la macchina fotografica invece va ormai considerata come del tutto trasparente, anzi come ridondante, molti fotografi parlano ormai della fine incombente del fotografo, del fotografare. Se qualcuno oggi fa delle fotografie, virgolette, sperimentali, ciò accade perché non ha capito che dalla macchina fotografica resa trasparente non esce più fuori nulla con cui si possa sperimentare. La cosa che conta piuttosto è ingannare con l'astuzia un apparato ormai pienamente automatizzato e che perciò continua a funzionare per forza di inerzia sputando fuori milioni di immagini. Ma esiste anche un'altra spiegazione del fatto che proprio le fotografie sono ciò che ci vuole per beffare con astuzia la tecnologia. Cioè praticamente vuol dire, chiaro cosa vuol dire, dice mentre... E le macchine da presa, i video, conservano dentro di sé strutturalmente uno spazio di sperimentabilità e quindi non lo puoi ingannare l'apparato perché te l'ha previsto lui, va bene, lo fai. E la vera macchina, il vero apparato che deve ingannare, che può ingannare, il vero modo per produrre immagini quiete è fare delle foto, se c'è, in modo da sorprendere l'apparato, proprio perché è diventato trasparente. Le macchine fotografiche, al pari di tutti gli apparati nati dopo di esse, sono apparati che producono immagini e le foto sono immagini moltiplicabili e diffondibili come tutte le immagini tecniche. Ma le foto sono ferme e silenziose e aderiscono a una superficie. Qua uno potrebbe dire, ma oddio, le foto me le guardo sul telefonino, su internet. Però anche nel telefonino aderiscono a una superficie, è uno schermo. Stanno su uno schermo, sono creazioni digitali ma devono stare lì. Mentre tutte le altre immagini tecniche o si muovono o emettono suoni o fanno tutte e due le cose o si estendono anche tridimensionalmente e acquistano volume, per esempio gli ologrammi. Perciò le fotografie a prima vista appaiono come le vecchie immagini, sono le eredi della pittura. Ed esistono effettivamente immagini che precedono l'avvento degli apparati, per esempio le litografie, che costituiscono un ponte tra le vecchie immagini e le fotografie. Se perciò si inganna con astuzia la macchina fotografica, la si costringe in modo strano a produrre contro il programma in essa incorporato qualcosa come una vecchia immagine. Ecco come si fa. ingannare l'apparato in modo da fargli produrre qualcosa come una vecchia immagine. I produttori di tali immagini cercano, per così dire, di costringere un apparato a ritornare indietro fino alla scopa. È difficile, ma questo è l'unico modo, dice lui, per poter... poi va avanti, il saggio ve lo finisco per conto vostro, perché è sempre finisce molto. Cioè, creando degli imprevisti. Creando degli imprevisti. Da quella logica che... Uscendo dalla logica. E questo riuscirà a vedere le cose, a fare le cose come le immagini storiche. Come delle immagini, sì, che recuperino, utilizzando le tecniche di oggi però, certo, che... Allora lui adesso diciamo subito dopo risponde a una obiezione, dice vabbè, ma scusa, ma allora non ci si può mettere a fare le immagini con le stesse tecniche che usavano quelle di Lascaux o che usavano le immagini storiche? E lui dice: è evidente che le immagini realizzate attualmente senza apparati tecnologici non sono per nulla come le vecchie immagini. Esse non costituiscono una semplice prosecuzione della storia. Sono state realizzate, infatti, nella consapevolezza che le immagini tecniche ormai si sono impadronite di gran parte delle funzioni che le vecchie immagini dovevano svolgere. I produttori di immagini senza apparati cercano piuttosto le lacune che gli apparati hanno finora lasciato allo scoperto. Cercano quello che gli apparati non sono in grado di fare. È perciò erroneo e offensivo per i produttori di immagini considerare le loro come un ulteriore anello di una catena di immagini della durata millenaria. Questa catena è stata spezzata dall'invenzione della macchina fotografica. Anche se non tutti i pittori del XIX e del XX secolo se ne sono resi conto, hanno continuato a dipingere come se fotografia e cinema non fossero stati inventati, sono quelli che piacciono a Sgarbi. Ma oggi è comunque chiaro che i produttori di immagini senza apparati sono assolutamente consapevoli dei compiti che si pongono loro. Gli inventori degli apparati, produttori di immagini, avevano l'intenzione di spostare dagli uomini alle macchine l'immaginazione, e in ciò perseguivano due scopi. In primo luogo ottenere un'immaginazione efficace, in secondo luogo condurre gli uomini a un'altra e nuova immaginazione. Entrambi gli scopi sono stati non solo raggiunti, ma anche oltrepassati. L'immaginazione operante nelle immagini tecniche è così potente che non solo noi scambiamo le immagini per realtà, ma viviamo anche in loro funzione, addirittura. E la nuova immaginazione, ovvero la capacità di trasporre in immagini i concetti più astratti come gli algoritmi per mezzo di apparati, incomincia a permetterci oggi di vedere delle conoscenze come delle immagini, dunque a esperire esteticamente. Tuttavia non tutte le capacità dell'immaginazione umana sono surrogabili mediante apparati. Ciò che non è surrogabile devono mostrarlo le immagini attualmente prodotte senza apparati. Si può dire che queste immagini, al pari dei lavori fotografici, vengano prodotte per abbindolare gli apparati. Si tratta tuttavia di due strategie diverse, di due astuzie tra loro opposte. I lavori fotografici sono fatti per costringere gli apparati a realizzare qualcosa per cui non sono programmati. Le immagini senza apparati per mostrare i limiti degli apparati e trascenderli. Le immagini di entrambi i generi sono quiete, immobili e silenziose. Si tratta della quiete prima e dopo la tempesta. Io aggiungo un commento e una cosa che spero possa chiarire meglio questa osservazione di Flusser. Non tutte le capacità dell'immaginazione umana sono surrogabili mediante apparati. E quindi adesso parlerò del linguaggio, però se ci pensate bene è qualcosa che si può applicare in qualche maniera anche all'immagine. All'interno della operabilità, sia di immagini che di linguaggio, dal punto di vista degli apparati tecnici, cioè questa, diciamo, questa attività si basa su un presupposto che è diventato molto più chiaro e molto più, virgolette, trasparente proprio con l'avvento delle tecnologie digitali. E cioè, per poter essere prodotte da una macchina, da un apparato tecnico, immagini e parole, queste linguistiche, devono essere algoritmizzabili, cioè codificate dentro uno o più algoritmi. Allora, io interpreto le indicazioni di flusso in questo senso. Le immagini quiete di flusso, come eventualmente quelli di flusso, puoi chiamare i testi quieti, sono quelle immagini e quei testi che vengono prodotti utilizzando lo scarto, l'eccedenza che c'è tra la componente algoritmica dell'immagine e del testo e quella non algoritmica. Detto in altre parole, sono quelle immagini e quei testi che si basano, che eccedono l'algoritmo, che eccedono la possibilità, la capacità degli algoritmi, degli apparati tecnici di produrre quello che devono produrre, immagini o testi, tramite algoritmi. Questa è la stessa, cioè questo genere di osservazione è esattamente quello che è la risposta alla domanda, se ce la siamo posta, che ci siamo posti precedentemente, l'avevo detto, ma come? Non c'è più nessuna speranza di fare qualche cosa che sia al di fuori degli orizzonti del capitalismo, se il capitalismo mai è stato capace di assorbire non solo le cose più semplici come la produzione di oggetti partendo da materie prime, ma addirittura la produzione linguistica. Allora, perché è vero che il capitalismo è in grado di valorizzare la produzione linguistica, ma come può valorizzare la produzione linguistica? Qual è la condizione alla quale il processo di produzione, cioè l'insieme delle tecniche di produzione capitalistiche può assorbire, può utilizzare la produzione, diciamo, linguistica? In altri termini, quale produzione linguistica può essere valorizzata? Tutte le produzioni linguistiche? No, non tutte le produzioni linguistiche. Quella porzione, quella parte di produzioni linguistiche che sono algoritmizzabili. Le tecniche di cui il capitalismo, il capitale, si vale per far entrare la nostra produzione linguistica all'interno del processo produttivo e quindi farle diventare valore economico, sono esattamente le produzioni, quelle produzioni linguistiche che sono traducibili in algoritmi. Ora, nessuna produzione linguistica è realmente di per sé traducibile in uno o più algoritmi. Il linguaggio ha una dimensione che va oltre quella dell'algoritmo, che va oltre quella della specificazione passo per passo delle cose, diciamo, che devo fare. La complessità del linguaggio è tale che non è integralmente descrivibile mediante un algoritmo. Ogni produzione linguistica, ma ovviamente alcune più di altre, hanno delle componenti che non sono algoritmizzabili. Allora, l'utilizzo economico delle nostre produzioni linguistiche, della nostra produzione linguistica, è relativo, cioè si basa da parte dei meccanismi economici, da parte del processo di valorizzazione, si basa sulla loro traduzione in algoritmi. Il capitale è in grado di valorizzare solo ciò che è traducibile in un algoritmo. Allora, a me pare che le immagini quiete di Flusser si possano identificare come quelle immagini che eccedono diciamo il loro carattere algoritmico, come ciò che nelle immagini c'è di eccedente il loro carattere algoritmico. Questa eccedenza la si può trovare anche nelle immagini prodotte dagli apparati tecnici, perché anche nel in questo modo che si beffano, che ci si fa beffe degli apparati tecnici, che si usa l'astuzia. L'astuzia consiste nell'introdurre all'interno di queste di questi apparati tecnici qualche cosa che sia irriducibile all'algoritmo, qualche cosa che non sia algoritmizzabile, che non sia descrivibile in maniera passo per passo. Attenzione, questo qualche cosa non può essere un'intenzione umana, perché l'intenzione umana di per sé è totalmente indifferente all'apparato tecnico. Deve essere qualche cosa che, che viene ricavato dall'interno dell'apparato tecnico stesso. Adesso rischio di dire una stupidaggine, quindi forse l'esempio non è... però spero che voi ne sappiate più di me, siate in grado di... A me pare che, per esempio, gran parte della sperimentazione musicale e tecnologica di oggi, per esempio la musica degli 8 bit, tutte queste cose qua, tutte queste musiche prodotte con o vecchi apparati o vecchie cose, non fanno altro che questo, cioè introducono degli scarti anche quando utilizzano dei procedimenti algoritmici, lo fanno saltando su un altro piano, prendendo uno strumento più vecchio, prendendo delle cose analogiche, introducendo, facendo introdurre alla macchina degli elementi, perché la macchina può fare questa cosa? Esattamente per la ragione per la quale Benjamin aveva tanti anni prima ha parlato di inconscio ottico e che si può generalizzare e dire che c'è un inconscio tecnologico. L'inconscio tecnologico in qualche modo può essere messo in relazione con l'inconscio psichico. Un'altra analogia può essere fatta con una cosa che abbiamo già visto, con le derive psicogeografiche dei situazionisti. Cos'erano in fondo le derive psicogeografiche dei situazionisti? Erano ci si metteva in una situazione, uno spazio urbano, pensata, prodotta, eccetera, per una serie di strumenti, scopi pratici. Far circolare le macchine, fare certe cose. Si prendeva atto che c'era un'eccedenza in questi spazi sia pure in maniera esigua, in maniera anche difficile da cogliere magari, ma andava al di là di queste di questi immediati usi, come dire, virgolette, pratici o pratici quotidiani o abitudinari degli spazi urbani. L'uso abitudinario degli spazi urbani si potrebbe dire è una specie di analogo dell'algoritmo, no? È qualche cosa, è ripetitivo, faccio questo, faccio l'altro. Quando io mi immetto dentro questa cosa e faccio emergere una sintonia, una qualche, tra un mio stato psichico che è irriducibile, che è differente da quello dell'utilizzo pratico abitudinario di quegli spazi, quindi rappresenta una differenza, rappresenta uno scarto. Quando faccio entrare questo scarto dentro all'algoritmo, dentro all'algoritmicizzazione o all'abitudinarietà, allora, io ho realizzato improvvisamente, è come se fosse una serie inconscio, qualcosa che era latente in quella struttura urbana e che gli ho tirato fuori io, ma non perché gli ho aggiunto un'intenzione, perché sono stato in grado di mettermi in sintonia con alcune caratteristiche si può dire, virgolette, oggettive di quella cosa. Allora, in altri termini, si può dirla per, cercherò di vedere se posso formularla in modo ancora, anche perché ci sto pensando adesso in questo istante, non è che non sono cose che ho già elaborato a fondo, quindi può darsi che alcune siano stupidaggini, quindi pigliatele come, come vi viene. Ma, allora, un altro modo di dire può essere questo. Diciamo il concetto utile in questo caso è quello di differenza, di scarto. Lavoriamo sulle differenze, è solo la differenza che fa emergere, diciamo, le relazioni. Qualsiasi relazione è basata su una differenza. Se non ci fosse una differenza nei termini della, diciamo, relazione, nelle due persone, nei due individui che si relazionano, nei concetti che vengono messi in relazione, non ci sarebbe nessuna relazione. È chiaro che ogni relazione presuppone una differenza. Allora, ci sono diversi modi di trattare questa, come dire, differenza. L'algoritmo tratta le differenze. Diciamo, la macchina, il computer è, come hanno ben visto Gibson e Stirling, è una difference engine, una macchina differenziale, tratta delle come dire, differenze. Però, come tratta le differenze il computer? Le tratta in modo algoritmico, quindi le tratta in modo, come dire, normalizzandole, dicendo questa è la regola attraverso la quale e questo suono produce esattamente questa cosa, questo suono produce. Il presupposto linguistico sul quale si basa il trattamento delle differenze tra diciamo, all'interno di un computer è che queste differenze siano assolutamente apparenti e non reali e che dietro a questo a questo scarto tra il linguaggio e il mondo si nasconda invece una corrispondenza perfetta tra il linguaggio e il mondo. Se il linguaggio fosse questo, noi non avremmo realmente alcuno scampo, saremmo prigionieri della logica della macchina, davvero non potremmo uscirne. Ma perché si può beffare la macchina? Perché il linguaggio non è aderente al mondo. Il linguaggio è sempre differente, è sempre scartato. C'è qualcosa del linguaggio che eccede il mondo, qualcosa del mondo che eccede il linguaggio. Questa eccedenza del linguaggio sul mondo e del mondo sul linguaggio, il computer non è in grado di, diciamo, trattarla, attenzione, allo stato dell'arte. Il computer ha uno stato dell'arte che è una particolare raffinatezza dei suoi algoritmi e quindi dei programmi che, diciamo, genera, che certamente può essere migliorata. Ogni programma, ogni programma non è che una astrazione scientifica che poi viene resa, diciamo, concreta. L'astrazione scientifica in quanto tale ovviamente si deve basare su questa ipotesi, sull'ipotesi della assoluta trasparenza del linguaggio. Io posso sorprendere la macchina nel senso di, se riesco a individuare quel poco o tanto di eccedenza che c'è del linguaggio sul mondo, faccio fare al linguaggio qualche cosa che la macchina non è in grado di trattare al suo livello dell'algoritmo. Certamente può essere benissimo che fra 2 mesi, 6 mesi, 1 anno arriva un algoritmo più potente, più raffinato, che mi consente anche di trattare quello che ieri era uno scarto, è chiaro? Ma io sono, virgolette, garantito dal fatto che ancora una volta l'apparente schiacciamento del linguaggio sul mondo, che il tecnico informatico presupporrà sempre per fare i suoi programmi, non esiste. Vuol dire che nel momento in cui lui è stato in grado di riassorbire quello di cui si è accorto, o di quello di cui gli è stato segnalato da qualcun altro, eventualmente anche da un'azione che può avere fatto una soggettivazione, un soggetto in fieri che gli abbia messo il sassolino e gli abbia fatto capire, no guarda che qua su questa roba questo era in più, non ci gabbi, questo non c'entrava con il tuo programma. Lui può farlo, certo, perché fa una roba un po' più raffinata, ma nel momento stesso in cui lui fa una roba più raffinata, se io sono bravo, trovo, se ne sono capace, trovo quell'altro scarto, quel po' di scarto in più che c'è sempre, perché il processo è infinito, non può essere mai assorbito. Di questo siamo, come dire, sicuri, o perlomeno questo è il presupposto sul quale ci basiamo per fare le immagini quiete, per lavorare in modo che diciamo il linguaggio non sia totalmente valorizzabile. Noi siamo convinti che il linguaggio non sia totalmente valorizzabile perché sappiamo che il linguaggio eccede il mondo e il mondo eccede il linguaggio. Allora, io più o meno questo è quello che ho da dirvi su Flusser. Quello è quello di Flusser che mi hai detto che io non conosco, no? No, questo qua è di Titti la Rocca, che diceva che il linguaggio non esiste, tutto è metalinguaggio. Questa mi pare un'affermazione un po' gratuita, però. Metalinguaggio de che? Se non c'è il linguaggio, che metalinguaggio fai? Ah no, lo prendeva da Gorgia. Infatti non ho capito bene. Gorgia è uno dei più importanti sofisti greci, sì. Quindi noi non comunichiamo le cose che esistono, ma solo il linguaggio. Questo è di Gorgia. Sì. È una sì, una, come dire, l'aspetto compattivo del relativismo, insomma. Ripeti la frase. Noi riteneva che il linguaggio fosse inadeguato alla comunicazione umana. Gorgia, no? Lei Gorgia, poiché se qualcosa è comprensibile non è comunicabile. Sì. Ciò con cui noi comunichiamo è la parola e il linguaggio non è la stessa cosa della realtà percettibile. Così noi non comunichiamo le cose che esistono, ma solo il linguaggio. Allora, l'affermazione presuppone che tu sappia che cosa esiste, giusto? Ma se l'unico approccio, l'unico strumento che tu hai per conoscere la realtà, oltre ovviamente ai tuoi sensi, è il linguaggio, come fai a dire che il linguaggio non descrive esattamente quello che... Chi te l'ha detto a te quello che esiste? Allora, ogni idea di metalinguaggio... Allora, se metalinguaggio significa l'esame... dei modi di funzionamento e delle procedure, degli algoritmi quando ci sono, dei non algoritmi quando non ci sono, del linguaggio, va bene, ed è una cosa utile. Se metalinguaggio significa una sorta di superlinguaggio che ti consente di arrivare alla cosiddetta essenza della realtà e ti permette di dire il linguaggio non esprime la realtà, il linguaggio esprime la realtà, è un'affermazione priva di senso e terribilmente supponente. Perché presuppone che tu sappia che cos'è la realtà. Che cazzo ne sappiamo noi di che cos'è la realtà? Non abbiamo la minima idea di cosa sia la realtà. Allora, nella migliore delle ipotesi, vale la posizione kantiana, ma si può demolire pure quella, ma nella migliore delle ipotesi, secondo cui la realtà, il nucleo della realtà, quello che lui chiama noumeno, è qualcosa che sappiamo che esiste, ma che è totalmente inconoscibile. Tutto ciò che noi possiamo conoscere, dice Kant, sono i fenomeni, ma i fenomeni sono esattamente l'aspetto linguistico della realtà, cioè ciò che è descrivibile, ciò che è trattabile con uno strumento linguistico, questi sono i fenomeni. Quindi è un'affermazione di iper e ingiustificato realismo, quella di dire... Il linguaggio non esprime la realtà. Quando io dico che intanto io non parlo di realtà, ma parlo di mondo, perché sono due cose diverse. Diciamo, realtà è veramente un concetto talmente metafisico e talmente. Il mondo è, come dire, la realtà quale ci è, quale è accessibile a noi e quindi quale in qualche modo noi l'abbiamo già trasformata con la nostra azione. Anche dentro questa realtà costruita da noi, quindi questo mondo che è in via di principio conoscibile, non, perché è l'ambiente in cui noi ci muoviamo, è quello che facciamo, è quell'intreccio di natura, se ce n'è ancora, insomma, prati, campi, alberi, eccetera, eccetera, e i materiali che noi traiamo, cave di pietra, i materiali che noi traiamo da questa natura e ambienti artificiali nei quali siamo, questo è il mondo, no? Allora, anche questo mondo è talmente complesso che il linguaggio non lo può descrivere totalmente. E c'è il rapporto tra linguaggio e mondo, è un continuo rincorrersi tra, diciamo, da parte del linguaggio a trovare le zone sempre nuove del mondo che devono essere, diciamo, descritte. Ma questo non implica, cioè, questo lavoro, anzi, implica proprio il contrario, che noi non sappiamo cos'è la realtà, che la realtà è diciamo, la realtà intesa come una totalità esistente che sta lì una volta per tutte, che non cambia più e che io devo cercare di penetrare. Ogni volta che gli esseri umani si sono, come dire, si sono messi a lavorare con dei concetti del genere, hanno prodotto dei mostri. Si producono dei mostri così. Si produce qualcosa di assoluto, si produce Dio, si produce l'anima, si producono tutte queste cose. Addirittura il termine mondo, nel modo in cui lo aveva concepito Kant, è in questo modo. Io, siccome propongo che il termine mondo sia usato sempre in associazione con il termine linguaggio, intendo invece che il mondo è una realtà è qualcosa di dinamico, qualcosa che cambia, qualcosa che non rimane mai uguale a se stesso, esattamente come il linguaggio, esattamente come la soggettività, esattamente come l'esperienza. Tutto il mondo dell'uomo, tutto il raggio d'azione, l'ambiente d'azione dell'uomo è integralmente dominato dalla storicità, dal fatto che è un prodotto storico, che quindi si evolve, che cambia, che non c'è nessuna... dire il linguaggio non esprime la realtà vuol dire, coscientemente o no, introdurre una posizione essenzialista, cioè ci sono le essenze, allora ci sono le idee di Platone, cazzo. Allora teniamoci il Dio cristiano, il Dio ebraico, tanto, no? È questo che diceva Gorgia effettivamente? O è... Allora, Gorgia probabilmente diceva questo, ma infatti anche nel... non è che le posizioni dei come sofisti siano tutte... Allora poi però cerchiamo di tenere presente, perché sai, noi di questi sofisti non sappiamo praticamente nulla, allora Gorgia forse è l'unico di cui ci rimangono, cioè ci rimangono solo dei piccoli frammenti, delle cose tratte da altre opere. Cioè, la prima persona da cui ci sono rimaste quasi tutte le opere complete è Platone. Di quelli prima di Platone, quindi prima di Socrate, è gente che ha scritto un casino, perché hanno scritto un sacco, e anche di molti di quelli dopo non c'è rimasto praticamente nulla, c'è rimasto dei pezzettini citati da altri, infatti ci sono, quindi di Eraclito, di Parmenide, anche di Gorgia, e la gran parte, allora, per esempio Gorgia c'è un dialogo di Platone che si chiama Gorgia, che però è dedicato alla confutazione delle teorie di Gorgia, quindi intanto non siamo sicuri di sapere realmente. Allora, per quello che adesso mi ricordo io, poi non so, che non è che sono uno studente, non le ho studiate tutte quante bene, però grosso modo, per quello che mi ricordo, insomma, è Gorgia uno che ha fatto dell'odio, della menzogna, eccetera, delle robe normali che un qualsiasi semiologo di oggi, insomma, sono probabilmente loro sono dei precursori della, come dire, semiotica. Adesso non lo so, però un'asserzione del genere cavata dal suo, come dire, contesto è di difficile interpretazione, chissà cosa voleva dire. Detta in quel modo lì, in un modo di questo tipo, implicherebbe una... Io non voglio dire che diciamo, mi pare che i insomma, sofisti non fossero degli essenzialisti, quindi probabilmente una frase di quel genere l'hanno detta. Allora, noi ci vediamo ancora lunedì prossimo, no? Sì. No, non è finito adesso, perché voglio solo sapere se posso. Quindi io adesso farei così, leggerei i due testi di Benjamin su cui, che sono quelli che hai lì tu, su cui riflettiamo la volta prossima. Allora, perché dico questo? Perché c'è un concetto, insomma, una nozione, un modo di dire di Benjamin, di Walter Benjamin, che comprende, cioè, che è basato su una, come dire, che utilizza un termine un po' minato per alcuni di noi, ma insomma che è dialettico, non è, immagini dialettiche. Se vuoi aprire, leggi, c'è il coso lì. Allora, intanto c'è un esergo, che è una poesia di Gerhard Scholem. Scholem è un amico ebreo di Benjamin, che all'epoca in cui non è stato questo, però se ne era andato in Israele, comunque con cui Benjamin è rimasto in contatto per tutta la vita. Lui era un sionista, Benjamin no. Però rimasero amici lo stesso. Dice questa poesia: Mein Flügel ist zum Schwung bereit, ich kehre gern zurück, dann bleib ich auch lebendige Zeit, ich hätte wenig Glück. La mia ala è pronta al volo, ritorno indietro volentieri, perché restassi pur tempo vitale, avrei poca fortuna, anche se restassi come un tempo vitale, avrei poca fortuna, quindi me ne torno indietro volentieri. Il testo di Benjamin è rapidissimo e secco. C'è un quadro di Klee che si intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L'angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto. Io credo che la frase fondamentale di tutto il coso sia questa. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l'infranto, cioè tornare indietro, come dice Scholem nella poesia. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso è questa tempesta. Ciò che chiamiamo il progresso è questa tempesta. Allora, i concetti fondamentali, allora è ovvio che se voi guardate il quadro di Klee, molte delle cose che Benjamin dice ovviamente non ci sono. Non ci sono le macerie, non ci sono niente. Però c'è lo sguardo un po' così, lo sguardo aperto, le ali distese, eccetera, diciamo ci sono. È però una lettura di questo quadro credo sia del 1920, quindi di una decina di anni prima. Benjamin ne aveva una riproduzione che si teneva, si è portato in giro per molto tempo. E adesso questo sta a un museo, credo, di Gerusalemme o di Tel Aviv, forse perché ce l'aveva a scuola, non so bene, adesso è una storia che diciamo non conosco, però quello che andate. Allora, i concetti fondamentali, le parole fondamentali sono intanto storia. Allora, questo angelo viene letto da Benjamin come l'angelo della storia. Poi abbiamo la dicotomia passato-futuro. C'è un paradosso. Quest'angelo ha lo sguardo rivolto verso il passato, però c'è un vento che lui dice una tempesta spira dal paradiso, non l'ha detto prima, perché deve essere il paradiso. Questo per il momento lasciamolo impregiudicato. Lui guarda al passato e questa tempesta lo spinge invece verso il futuro. Alla chiusura del frammento, della tesi di filosofia della storia, c'è il termine progresso. Il progresso è un altro termine importante. Allora, abbiamo detto storia, passato presente, no, passato, scusate, futuro, progresso, un altro termine chiave direi che è catastrofe, e accomunato con catastrofe c'è rovine, e poi la frase che vi ho detto mi pare, diciamo, centrale, destare i morti, ricomporre l'infranto, quindi una idea formulata di tornare indietro. Allora, è chiaro che la cosa è paradossale, che mi pare che si possa dire che, allora, intanto è una critica dell'idea, della, diciamo, nozione e del concetto di progresso, tanto per cominciare, rovescia l'idea fondamentale del progresso, quale era stata elaborata dal positivismo ottocentesco e europeo. Il progresso è guardare ben fissi verso il futuro e andare, camminare. Invece qua l'unico progresso possibile si ha se qualcuno guarda, rivolto al passato. E poi dietro c'è un termine che questa teoria del progresso era, questo modo di vedere, questa figurazione, questo modo di concepire il progresso aveva largamente ai tempi di Benjamin influenzato anche il marxismo e comunque la politica, le pratiche politiche del movimento operaio dell'epoca, insomma, sia quello di tendenza socialdemocratica, sia quello di tendenza comunista, che erano i due grandi filoni in cui si era diviso il movimento operaio dopo il 1917, cioè dopo la rivoluzione russa. C'è un concetto che mi pare che traspare in questa frase che vi ho detto, che è quella di c'è un contatto tra due, c'è una relazione implicita, perché non viene detta, ma tra due concetti, e questi due concetti sono tornare indietro nel tempo in qualche modo, cioè realizzare un'inversione temporale e sanare un'ingiustizia. Ecco perché questa cosa non piaceva tanto, non è mai piaciuta tanto ai marxisti ortodossi di tutte le... perché sembrerebbe introdurre una specie di punto di vista o di modo di vedere un po', insomma, rinunciatario, no? O addirittura totalmente fantasioso, fantastico. Io penso che si possa dire così, in questo frammento, questo è il mio, poi dopo lo argomentiamo meglio la volta prossima, però. Benjamin vuole rovesciare il punto di vista tradizionale che le rivoluzioni si fanno per costruire un futuro migliore, e mi pare invece che il suo punto di vista sia: le rivoluzioni si fanno per sanare le ingiustizie del passato, per destare i morti e ricomporre l'infranto. Questa è la vera ragione per cui ci si muove, quindi non per il progresso. Se ci muoviamo per il progresso, probabilmente non arriviamo a... Ma ripeto che lo analizziamo meglio la volta prossima, questo come l'altro che adesso. Allora, se andiamo a prendere Parigi Capitale, allora Parigi Capitale è un'opera complicatissima, te l'ho già detto varie volte, insomma, consiste in, a parte l'introduzione, in un saggio di 25 pagine. Cioè, in realtà in due o tre relazioni, lo diciamo, exposé in francese. Tre, no, due. In realtà che sono una in tedesco e una in francese. Parigi, capitale del XIX secolo. E Paris, capitale del XIX secolo, che praticamente è la versione più o meno francese di questo, però è un po' cambiato. Così. Numero di pagine, così. Tutto il resto del libro sono le citazioni delle brevi, ma in gran parte sono citazioni da saggi, da libri, da articoli presi, che questo era il suo modo di lavorare, insomma, no? E una serie di diciamo note rapide che lui diciamo faceva e che ci è voluto un po' per come dire, mettere a posto. Se leggiamo, è un po' lungo, ma e poi vabbè, dei primi appunti e dei primi progetti di stesura finali, ma sono veramente poche pagine. Sono queste pagine qua. Il grosso, diciamo, del libro sono i materiali, ed è questo. I curatori hanno, probabilmente erano delle, diciamo, sezioni che aveva già fatto lui, che aveva già imparato lui, sono moda, la Parigi arcaica, catacombe, demolition, declino di Parigi, la noia, eterno ritorno, Haussmannizzazione, lotte di barricata. Haussmann è il generale francese, che generale architetto che in qualche modo sovraintese alla trasformazione urbanistica di Parigi dopo il 1871, cioè dopo la Comune, dopo che ebbero sterminato i comunati, e diciamo il potere borghese di Parigi si rese conto che tutti i vicoli di Parigi erano terribilmente pericolosi perché consentivano, e c'erano state tre grandi rivoluzioni, quella a parte la grande rivoluzione dell'89, quella del 1931, quella del 1948 e poi quella del 1971 con la Comune di Parigi, tutte e quattro erano, come dire, si erano sviluppate perché con i vicoletti, con le cose di così, quindi era meglio demolire tutto il centro storico, cioè bisogna fare dei bei viali, delle belle avenue grandite, dei bei boulevard, dove obiettivamente fare una barricata su di un boulevard era cioè, largo 50 metri, è ben diverso di farla su una viuzza larga 5 metri. Automatizzazione. Costruzione in ferro, esposizioni, pubblicità, Granville. Granville è un disegnatore della fine dell'Ottocento. Il collezionista, l'interieur, l'interno, la traccia. Baudelaire, c'è una sezione dedicata solo ovviamente a Baudelaire. Città onirica e architettura onirica, sogni a occhi aperti, nichilismo antropologico, Jung. Questo città onirica e architettura onirica è interessante, però c'è anche... rimane, viene anche fuori nella sezione successiva, architettura onirica, museo terme. Tutte queste sezioni vengono indicate con delle lettere maiuscole in ordine alfabetico, quindi A, B, C, D fino a N, L, M, eccetera. Il flâneur. Il flâneur sappiamo chi è? Sappiamo cos'è? Ok. Il flâneur. Teoria della conoscenza, teoria del progresso, che è la sezione N che analizzeremo un po' noi. Prostituzione e gioco, le strade di Parigi, panorama, specchi, pittura Jugendstil, novità, sistemi di illuminazione, Saint-Simon, ferrovie. Saint-Simon era uno dei primi socialisti cosiddetti utopisti. Cospirazioni, compagnonage, cospirazioni, società quasi segrete. Fourier, altro socialista cosiddetto utopista. Marx, la fotografia, la bambola, l'automa, movimenti sociali, Daumier, che è un pittore anche sull'Ottocento, storia della letteratura, Hugo, la borsa, storia economica, tecnica della riproduzione, litografia, la comune, la Senna, la vecchia Parigi, ozio, materialismo antropologico, storia di sette, École Polytechnique. Queste sono le... Quest'opera è nota con, il suo titolo vero è Parigi, capitale del XIX secolo, e quindi, diciamo, eleggeva Parigi a una sorta di capitale immaginaria dell'immaginario dell'epoca, però in realtà il nome con cui è più conosciuta, è più nota, il nomignolo, è Passage en Werk, cioè l'opera dei passaggi. Cos'era? E cosa sono i passaggi? I passaggi parigini sono delle cose che non esistono più ormai in pratica, ma che esistevano invece ancora fino agli anni 30-40, grosso modo, hanno poi cominciato a essere dopoguerra. Noi qua ne vediamo alcuni. Adesso vi spiego come erano fatti e perché sono così importanti per... Vabbè, uno dice potreste andarti a cercare l'indice invece di... Perché credo che nell'indice ci siano, ma mi piace di fare così. No, tanto non li trovo mai, l'indice dell'illustrazione. Siamo con l'indice. Ah, perché sono un sacco anche all'inizio, ecco perché. Anzi, sicuramente sono più all'inizio. Eccolo. Di qua si capisce meglio che così era un passaggio. Questo è il passaggio Colbert, non credo che sia più. Io ho fatto un giro per i 3-4 passaggi che sono rimasti, non so, 6 anni fa. Ma infatti ce ne sono ancora. 2-3, pochissimi, non ce ne più. Galerie Colbert, passaggio dell'Opera. Ecco, così si capisce che questo si va più messo. Quindi erano, in pratica, spesse volte lo sviluppo urbanistico di Parigi aveva prodotto delle, come dire, molte coppie di edifici abbastanza vicini, no? Quindi con poco spazio per un lato, con non abbastanza spazio per farci una strada, perché non era possibile, però la gente ci poteva passare, ecco perché il passaggio. Allora era stato messo, in genere veniva messa una copertura trasparente di vetro in modo che la luce, almeno durante il giorno, la luce, diciamo, passasse, e all'interno, diciamo, e quindi da una parte e, diciamo, dall'altra di questi, di questi passaggi c'erano spesso un sacco di negozietti, negozi, robe, eccetera, mescite, e questi passaggi quindi erano intanto su una caratteristica tipica di Parigi, non si trovano in altre città dell'Europa dell'epoca, ed erano lo sviluppo, erano un centro di sviluppo di una vita, diciamo, sociale, di una vita, erano i centri di aggregazione, almeno in parte, dove c'erano di certi quartieri popolari del centro, insomma, in qualche modo, che erano quartieri più piccoli di quelli che noi oggi indichiamo come Marais o Quartier Latin, eccetera, eccetera. C'è un romanzo anch'esso degli anni 20 o fine anni 20, credo, in cui almeno nella prima parte i passaggi sono protagonisti, ed è il secondo romanzo di Céline, che si intitola Morte a credito, e che racconta l'infanzia di Céline Bambino, perché i suoi avevano appunto un negozietto di moda, pretenziosamente definito di moda, la madre, soprattutto il vestito della madre, poi il padre, tutte le cose, in uno di questi passaggi. Quindi lui praticamente tutta la prima parte del libro si svolge in questi passaggi, mi sembra negli anni intorno al 1890-95, perché a un certo punto racconta la prima esposizione, o una delle grandi esposizioni internazionali di Parigi, che mi pare sia quella del 1895, lui è ancora piccolo più o meno, perché lui ha fatto la prima guerra mondiale, quindi nel 1914 doveva avere una ventina d'anni, forse anche di più, credo fosse già, forse, no, non si era ancora laureato forse. La prima opera è la più famosa di Céline, si chiama Voyage pour la nuit, Viaggio al termine della notte, e racconta invece la sua, ha scritto quasi sempre opere autobiografiche, ovviamente con un po' di invenzioni, insomma, ma si è cambiato nome, per esempio. Vabbè, ha preso il nome della madre, ci ha messo il nome della madre, che è Destouche. E allora, Viaggio al termine della notte è la sua esperienza della prima guerra mondiale. Morte a credito, che è il secondo libro, fa un passo indietro e racconta invece dalla sua infanzia fino all'adolescenza. Allora, Parigi capitale. Leggiamo solo questa e poi ce ne andiamo a casa, o meglio, io devo andare un appuntamento. Allora, nella sezione M, Teoria della conoscenza e del progresso, insieme a una serie di... Allora, giriamo, poi c'è un pezzettino sul flâneur che sta invece nella parte flâneur. No, giriamo, quello non lo leggo, è quello lì. In cui ci saranno una serie di termini che vi risulteranno ostici, ma che spieghiamo la volta prossima, perché non credo vi sia più tempo. Ciò che distingue le immagini dalle essenze della fenomenologia è il loro indice storico. Heidegger cerca invano di salvare la storia per la fenomenologia in modo astratto, attraverso la cosiddetta storicità. Queste immagini devono essere assolutamente distinte dalle categorie della scienza dello spirito, il cosiddetto habitus, lo stile, eccetera, eccetera. L'indice storico delle immagini dice infatti non solo che esse appartengono ad un'epoca determinata, ma soprattutto che giungono a leggibilità solo in un'epoca determinata. Allora, spiego solo due cose, ma poi ripeto che ci torno dalla volta prossima. Questa prima parte ci fa pensare che Benjamin voglia discutere qui un punto di vista sulle immagini che evidentemente lui considera, diciamo, diffuso, e che considera le immagini, un po' come fa Jung con i suoi archetipi, eccetera, come l'espressione di qualche cosa di essenziale. Le immagini esprimono una essenza. Ora, lui dice, questo non è vero. Le immagini non sono la stessa cosa delle essenze, lui dice, della fenomenologia, perché la fenomenologia era una delle, è quella di Husserl, una delle teorie filosofiche più, diciamo, contemporanee a lui, no? Insomma, Husserl scrive le sue opere maggiori tra il 1911 e il 1929-30. Perché dice questo? Perché le immagini hanno un indice storico. Poi c'è un modo, dice, Heidegger cerca di salvare capre e cavoli, perché dice c'è una storicità anche nelle essenze della fenomenologia, ma lui dice che lo fa in modo astratto. Poi dice, queste immagini non sono neanche le categorie della scienza dello spirito, cioè anche qui siamo sempre di fronte ad un pensiero di tipo, diciamo, essenzialista, che vuole definire delle essenze. Le immagini non sono essenze, quindi, secondo lui. E dice una cosa che sembra stramba, ma è... perché hanno un indice storico che ci dice non solo che sono state prodotte in un certo momento, ma che possono essere lette, o possono essere lette in modo completo, in modo utile, produttivo, in un certo altro momento. Questo momento della loro leggibilità può non essere lo stesso della loro produzione. Quindi può essere che queste immagini debbano stare lì per un certo tempo e poi venga il momento in cui possono essere lette. E precisamente questo giungere a leggibilità è un determinato punto critico del loro intimo movimento. Quindi le immagini avrebbero un movimento intimo, non sarebbero fisse come noi pensiamo. E il loro indice storico ci direbbe non solo quando sono state prodotte, ma anche quando giungono alla loro piena leggibilità. Ogni presente è determinato da quelle immagini che gli sono sincrone. Ogni ora, adesso ora c'è in parentesi il termine tedesco, perché ora, perché ora è un termine ambiguo in italiano, quindi questo ora è inteso come adesso, è un avverbio, jetzt è l'avverbio che vuol dire ora, adesso, quindi non ogni ora, nel senso l'ora del tempo, ogni ora, ogni istante, ogni adesso, ogni jetzt, è l'ora, è lo yetz, di una determinata conoscibilità. In quest'ora la verità è carica di tempo sino a frantumarsi. La verità è carica di tempo sino a frantumarsi. Vedete che evidentemente non è una concezione della verità come qualcosa di immutabile. La verità è carica di tempo. È talmente carica di tempo, c'è talmente il tempo, che si frantuma. E questo frantumarsi e nient'altro è la morte dell'intenzio, che coincide con la nascita dell'autentico tempo storico, il tempo della verità. L'intenzio è l'intenzione o l'intenzionalità tipica della fenomenologia. E torna alla questione della fenomenologia. E se la verità è carica di tempo fino a che si frantuma, vuol dire che questo coincide con la morte o comunque con lo scomparire dell'intenzione umana, cioè c'è un, come dire, processo che ha delle sue caratteristiche oggettive, non eterne, ma oggettive. Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l'ora, con lo yes, in una costellazione. Questa unione dell'immagine, di ciò che è stata l'immagine, quindi del passato dell'immagine, con l'ora, con l'adesso, con lo yes, crea una costellazione. In altre parole, immagine è la dialettica dell'immobilità. Da qua si vede che Benjamin usa il termine dialettica in modo molto diverso da come lo usava Hegel. Perché dice costellazione? Costellazione, che vuol dire che produce una forma che prima non c'era. Una costellazione è un insieme di stelle, no? A cui noi diamo una certa forma, che noi riconosciamo come una forma. Allora, nel momento in cui questa è un'immagine, nel senso in cui la intende lui, l'immagine, adesso poi le chiamerà dialettiche, insomma, non sono tutte le immagini così. Le immagini di cui lui parla sono quelle che in cui il passato di quell'immagine si unisce con l'adesso, si unisce con l'ora e forma una costellazione, quindi dà luogo ad una nuova forma, a una nuova visibilità dell'immagine. Detto in altri termini, si vede nell'immagine qualcosa che prima non si era visto, che prima non si vedeva. Se ci pensate bene, ve l'ho messo insieme qualcosa perché è praticamente non è altro che la spiegazione di quello che lui ha fatto con il quadro di Klee, insomma. No? Poiché mentre la relazione del presente con il passato è puramente temporale, quella tra ciò che è stato e l'ora, yes, è dialettica, non di natura temporale ma immaginale, cioè ha a che fare con le immagini. Questo è troppo complicato, quindi ne discutiamo la volta prossima. Solo le immagini dialettiche sono immagini autenticamente storiche, cioè non arcaiche. Solo le immagini dialettiche, cioè le immagini che giungono a quella leggibilità in quel certo momento. L'immagine letta, vale a dire l'immagine nell'ora della leggibilità, porta in sommo grado l'impronta di questo momento critico e pericoloso che sta alla base di ogni lettura. Allora, io... Sì, non... è molto complicato, giusto? Però, siccome io credo, allora, quello che voglio discutere la volta prossima è se queste immagini dialettiche di Benjamin abbiano qualche relazione con le immagini quiete di Flusser. Può darsi che ci arriviamo, ragazzi, non è che sia. Neanche un atto di pausa abbiamo fatto, eh? Guarda, guardala lì.